chi è? Chi è? Franco, sì. Veglia, dove mi ascolti? Boh, ho diverso di un'altra volta, cosa è successo? Sono in macchina. Ah, cappa. Dove sei tu? QTH. Ha cambiato qualcosa? Il microfono, mi ha passato il microfono bulldozer, un ZG Palmare con il VIP. Sei mai anche amplificato, sei stato fuori un po', sei anche amplificato là. Ma com'è la radio, buono o è satura? No, è buonissimo, Scappa, grazie, ok, grazie al referto. Ma, da che parte di Sassari sei? Sono le Lima Delta, cioè la Teloce. Sono coperto dai palazzi, Qui vedete un segnale di 6-7 se non sbaglio. Come ti arrivo lì? Non so se questo smitter è giusto, perché è un po' avaro. Aspetta che prendo gli occhiali. Vai Fra. Ricorda che il mic, questo è normale, quindi mi devo avvicinare magari per sentirmi forte. Vedi un po'. 920 pieno sei Fra, non so se c'hai qualche padella attaccata. No, anzi, l'antenna non è neanche sopra la capota, lo metto nella ruota di scorta dietro, eh. Ieri non riuscivo a farla funzionare, accordarla, oggi stranamente funziona tutto, e non ho fatto nulla, No, dico, se hai qualche pentolino attaccato. No, questo esce già con la pentola attaccata, ma non tantissimi, Cappa, comunque arrivi bene, 920 bello pieno. La radio, se parla da vicino, è buona? Cappa, radio 5. Perfetto, dai. Cosa stai combinando? Niente, guarda, ho acceso adesso, ho messo la batteria al microfono e lo sto provando. Va bene. Poi perché dovete uscire tanto? Se uscivi bene prima, potresti solo migliorare con questa probabilità. No, vabbè, chiaramente non, lo sto provando adesso praticamente, perché non ho avuto altre occasioni, e quindi tu sei la prima persona che mi sta ascoltando e che può fare il raffronto come ero prima. Adesso mi dirai tu se è meglio adesso o meglio prima. No, per me è meglio adesso, anche su conto che l'avrei messo in macchina, quindi ho cambiato trazione, sto parlando di diverso, però ti ascolto bene. Gianni. Ciao Claudio, buonasera. Ciao anche a Franco, dai, non mi trattengo perché sto uscendo. Stai provando col microfono? Sì, capo, guarda, ho acceso adesso. E quanto ce l'hai? A manetta, Claudio, c'è tutto il cursore a manetta. Va meglio comunque, più alta la modulazione. Com'è lì da te? Buono, tuo segnale, la radio è 5 perfetta, va bene. Capa, grazie mille. Ok, dai, sentiamo stasera se coincide che sto uscendo. Ciao, Fra. Capa. Ho dato un controllino, che sono in macchina. Ho messo l'antenna su questa paramobile. Vai un po', 1, 2, 3, prova. Santiago 8, sì. Mattino, dai, vabbè, sono in mezzo ai palazzi, qui a Lima Delta, dai. Grazie ancora, ciao. Ciao, ci sentiamo tra sé. A più tardi, qua. Ma sei lontano dal microfono? No, ce l'ho come sempre, come al solito, molto vicino. Ascolta, quel tastino che cos'è? Il Roger Beep, se vuoi lo tolgo. Aspetta, No, lascialo. Pensavo che avessi anche l'eco. No, negativo, c'è solo il volume sopra e boh. Va bene. Almeno sei più alto di radio, dai. Va bene. Cappa, è che c'era già la batteria dentro, adesso non so se Massimiliano l'ha messa nuova, magari la batteria è un po' giù, quindi se ci metto la batteria nuova magari spinge. Perché non c'hai Mickey Gain in quella radio, capito? È per quello che non spinge come deve spingere. Se quella radio c'ha il Mickey Gain, allora è diverso. Cappa, ok. Vabbè, piano, dai, non fottidini, già va bene, comunque va meglio di prima. Grazie, ok, dai, ci aggiorniamo. Piano migliori, dai, già. Pezzo a pezzo, dai, come se mattone su mattone. Guarda, devi iniziare da giù dal fondamento, piano. Bene, com'è a livello di tono rispetto all'altro? Più mediosa, più acuta o più bassa? No, è più, cioè più mini, dai. L'altra è un pochettino più sorda, guardate, ma giustamente è un microfono normale. Sì, l'ho aperto per controllarlo, perché come muovevo il cavo sentivo un po' di rumorini. e c'è la calza, insomma, ho rimesso a posto l'ultimo pezzettino della calza e niente, adesso ho smesso di fare quei rumorini. Niente, il microfono è a condensatore e quindi dovrebbe essere un po' più sensibile. No, va bene, aspetta che bambino, mi ha dato parecchio. Io mi sto divertendo perché c'è un cane con una ragazza qua che non riesce a tenerlo. Questo cane vuole giocare con un cagnolino, si è scappato da un cancello, si è arrampicato e si è buttato giù, si può caricare dal cancello per andare a giocare con questo cagnolo enorme che ormai c'è la museruola, però sembra bravo. Si sente abbaiare sottofondo, fra. Addirittura, eppure c'è un manche normale. Adesso non sa come rientrare, però. Ho sentito un paio di abbai in sottofondo. Sì, stavano abbaiando. Non so che razza sia, un bulldog, un cane grosso, quindi sarchiati, dai. K. Bene meda. Ma cosa sei, ritorno alla base? No, ancora sto lavorando. Avanti. A me già, buonasera. Saluto anche a Franco. Ciao Massimiliano, ben sentito e grazie ancora per il microfono. Sì, non ho problema. Ciao Massimiliano, buona serata anche a te. Ciao Fra. Buonasera a te due. Sono in paramobile, mi ascolto bene così. Santiago 7, sì, qua. Ti ascolto bene, la radio va bene, un po' classica, normale, va bene. Radio 5. Ehi, ma anche tutto originale, dai. Apparato e... Mike originale. Scappa, no, già va bene, a voglia. Ok, e beh già, cosa ti sembra? L'ho aperto perché c'era, facciamo un po' di rumore come muovevo il cavo vicino al mic. Ho visto praticamente dove finisce la guaina in plastica, che c'erano alcuni filetti della massa che insomma erano un po' liberi e si muovevano e insomma rompevano un po' le scatole, per cui ho aggiustato quei ciuffetti di casa che c'erano lì e sembra che abbia smesso di fare rumore. Piuttosto me lo devi dire tu come che differenza trovi. Beh, la radio sicuramente, con la radio non hai mitigate, però la radio è molto più forte. Dovresti farmi una prova, perché come cosa va bene, giusto, come connessione era giusta, giusto? Però dovresti fare una prova, allora stacchi uno e poi metti l'altro. Eia, sì, le connessioni sono uguali, non ho fatto assolutamente nulla. Piuttosto mi devi dire una cosa, una curiosità personale, ma la batteria che ti ho trovato dentro l'hai messa nuova o ce l'ha già Massimiliano? No, la batteria l'ho messa stamattina nuova, l'ho aperta dalla scatola e l'ho messa nuova, capito? Quella batteria l'ho comprata nuova perché mi serviva per me, per l'MB più 5, e l'ho aperta stamattina e prima di consegnarlo gli ho buttato dentro la batteria nuova. Ok, no, era giusto una mia curiosità personale, no niente, poi per il resto niente, l'ho richiuso e basta, e ciccia, insomma, niente di più e niente di meno. Però adesso non vorrei sbagliare, ma quel microfono all'interno, se tu lo apri tutto, dovrebbe avere un trimmer che aumenta ancora la modulazione, credo che sia così. Devo essere sincero, praticamente l'ho smontato e non sono stato lì a controllare il circuito stampato, sono andato direttamente, ho visto la cosa della casa, sono intervenuto lì e poi praticamente ho leggermente accorciato i cavi che andavano alla batteria perché erano troppo lunghi e c'era il positivo che si stava interrompendo, quindi li ho accorciati, li ho dissaldati e ho rimesso a posto l'attacco della batteria. Ok, va bene, ascolta, fai questa prova, stacca quel microfono e metti l'altro, non voglio sentire la differenza. Ok, aspetta un attimo. Secondo me non c'è paragone. Anche secondo me. Ehi, vabbè, la radio anche quella che è, capito, pure un gruppo. No, lo sta finendo bene, dai. Questo è il vecchio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai! 1, 2, 3, 1, 2, 3, radio test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, l'altro è meglio, ti dà più bassi anche. Ok, allora rimetto, dai. Bravo, tu già dici. No, guadagno almeno un 40% in più di modulazione, secondo me. Sì, anche secondo me. Ok, adesso ci ha messo il tuo Massimiliano. Il tuo è bene Mela. Ok, bene fatto, ti ringrazio. È più reale la modulazione, sembra più, si avvicina più la tua voce, diciamo, di persona, eh. Ehi, ehi, bene Mela, bene Mela. Ok, di lusso. Ci parli vicino, sì. Sì, come l'altro, come da abitudine, dai, ci sto parlando vicino. Gappa, gappa. Quel pulsantino funziona, cos'è? Il bip mi bacio. Sì, adesso lo metto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ehi, io lo potresti anche lasciare. Ehi, vabbè, subane, dai. Non lo so, adesso se lo tengo lo lascio, boh. Ehi tu, se ti piace lo lascio, se non ti piace lo togli. Però se c'hai due minuti, prova a aprirlo quel microfono, perché secondo me c'è qualche trimmerino per aumentarlo ancora, da il cursore, portarlo ancora più al massimo, però dal trimmer di dentro, secondo me. Boh, sì, dai, dopo magari più tardi lo apro e gli do uno sguardo. Così vediamo un po' se riesco a trovare questo trimmer che dici tu. Vabbè, io penso che sia così, non sono sicuro che ci sia, eh. Ok, bene meda, dai, sono contento che suona bene. Beh, la radio è migliorato parecchio, alle mie orecchie. Una basta? Ehi, ehi, affa. Va bene, e niente, là, sono contento che tu sei contento e tutti siamo contenti. Grazie mille, ma sì, vai, poi chiaramente a buon rendere, come si dice, siamo qua a disposizione nel caso hai bisogno, basta fare un fischio. Dipende cosa sai fare, quanto sai fare. Nel senso, voglio dire, mi piacerebbe quando sarà ricambiare la cortesia. Sì, non ti preoccupare, tu va, moduleggia e buh, fregate. Andà bene, dai. Ok, bene Mela. Franco al telefono, Claudio si è spostato, doveva fare roba, dice che ci avvicina più tardi. E anche io mi sposto adesso, va. Ero di passaggio, così ho acceso, ti volevo ascoltare bene, no? Comunque è migliorato, minimo, è migliorato con la radio del 40%. Bene, sono contento, dai. Ok, avanti così. E adesso vedrai come cambi, metti l'antenna e migliori ancora di più, secondo me. Sì, claro che sì, infatti adesso stasera vedo se entra Daniele, se no gli mando un messaggio e proviamo a piazzare la boomerang, quella grande, vediamo un po'. Ma perché l'ha già tolta? No, lui c'ha una boomerang nuova, smontata, grande. E beh, Gattusano è andato a pigliatira. Ci dobbiamo mettere d'accordo, lui so che sta lavorando, non volevo rompergli troppo le scatole, adesso gli mando magari un messaggio e più tardi gli dico quando è che ci possiamo beccare. Già lo trovo a due minuti, anche la sera, magari dopo il lavoro. Mettete d'accordo e tra piazzi, non lo devo. Sì, infatti ci siamo sentiti l'altra sera e sì, l'antenna è completa, dobbiamo solo metterci d'accordo e così vado a recuperarla. Va bene già, io me ne passo il QRX, là. E così e faccio qualcosina qua, non qua, giù, mi ho iniziato un lavoretto, ma devo finire, là. E poi devo uscire, ok? Ok, dai, a più tardi e grazie ancora, dai, ci sentiamo dopo. E io, ciao, saluta mio Franco quando rientro, ciao. Kappa. Ehi, Kappa, ciao Mattia. Buon lavoretto allora, buona serata. Adesso mi devo abituare alla sagoma di questo microfono che è diverso dall'altro. Quindi vabbè, dai, ma non è un problema. Hai abbandonato il progetto? Sì, adesso c'è Daniele che ha una boomerang grande che non sta usando. Proviamo a fare questa sperimentazione, tanto non la usa, insomma mi ha detto che si è reso disponibile a prestarmela, quindi la voglio collegare, vediamo un po' come esce. Però mi sa che la boomerang è tipo quasi una direttiva, sembra che non sia dal balcone, però dovrebbe rendere meglio della macchina, credo. Sì, sta stavo leggendo le caratteristiche. Sì, ha una leggera direttività, praticamente quell'antenna. Non è totalmente direttiva, però ha una leggera tendenza a essere direttiva, quindi, ma l'importante è accordarla bene, basta metterla nella posizione sua e insomma. A quanto ho sentito, anche leggendo nei forum e da gente che l'ha già avuta, insomma, ho sentito che insomma per tipo di antenna che è, fa il suo lavoro. Sì, l'ho avuta anch'io una, non era proprio in buone condizioni, era attentata dal vento, l'avevo un po' recuperata, mancava la zampa, lo stilo centrale, secondo praticamente, l'alluminio era attentato, quindi gli avevo messo lo stilo di macchina. Che l'avevo un po' appropriata, però andava bene, però come ho messo la canna da pesca nettamente migliore, cosa che è una cipriozzata, quindi recupera tanto il segnale. E beh, quello certamente. No, l'altra sera ne stavamo parlando e insomma adesso non ho capito perché Daniele era un po' titubante su che cosa prendere. Non so se poi aveva deciso, perché poi praticamente Giulio gli stava consigliando di farsi la Game Master con la canna, mi capito? Perché lui ha anche il problema dei radiali, deve passare la grondaia, non lo so, da meno problemi perché non ha radiali, quindi la metti come vuoi. Certo, sì, per lui forse sarebbe la soluzione più ideale, però magari non ha voglia di stare lì a farcela, non lo so, comunque era in piena fase decisionale. In fermentazione, no, io mi sono messo una sera e l'ho fatto, che prima mi ho fatto la spesa fuori cavo, per fare lo tubo e il condensatore, basta, per il di R213, poi il settore, e poi adesso ho messo le 2058, neanche di buona fattura, l'ho preso alla GBC, ma per carità, forse era meglio che usassi quel cavo vecchio che avevo. Sembra che qualcuno ti abbia sovramodato poco fa, aspetta che lascio un attimo di bianco. O forse mi sto sbagliando, comunque. Avevo questa sensazione. Quindi se stasera non lo sento gli mando un messaggio, vediamo un po' quando è che possiamo combinare. Peccato, io non so se sia meglio di tipo della mano, ma come si chiama. Avendo radiali io penso che qualcosa va perso, anche se qualcuno dice che di no, che se non ha radiali che riceve bene ugualmente, non l'ho mai testata, il lavanto va sono tanti anni che non la uso, quindi ce l'ho un altro QTH, dai. Ho capito. Vediamo, adesso mi stava dicendo che è tutta completa, staff e bulloncini e tutti gli accrocchi vari, quindi dovrebbero essere proprio 10 minuti per piazzarla. Sì, è facilissima, poi la corri dallo tubo e dal radiale inferiore, siccome la mia mi sembra che fosse 2,75 di altezza. Allora, la Sirio ne fa due. Fa quella grande, la boomerang A e la boomerang W. La boomerang A è lunga a 3 metri e 10 e qualcosa, mentre la boomerang W è alta 2 metri e 10, quindi è più piccola. Ma quanto so, quella che c'è a coso, Daniele, dovrebbe essere della Sigma, però più o meno dovrebbe essere intorno lo stesso ai 3 metri di antenna. Sì, mi ricordo così, 275 tipo radiale della Grand Plain, quello magari. Poi dipende se c'è qualche carica sotto, magari, sotto radiale. Praticamente sono andato a vederla nel catalogo della Midland. Sì, no, sono bene, sono. Per chi ha problemi di distacco sono ottimi antenne. Sì, guarda, tanto è facile piazzare, la metti in punta al tubo e giocandelli. Poi praticamente elimino quella giuntura che c'è, l'ultima giuntura che ho fatto su, quindi sono sicuro che guadagnerò straniero in segnale. Cavolo, sei intero il meglio, e poi anche di buona fattura, ancora meglio, specialmente quando non usi nulla, che sei liscio liscio, meno distrazione c'hai, è migliore. Certo. Purtroppo un'agenzia dovevo farla, quindi adesso quando arriverà l'antenna dall'altro capo del cavo ci mettiamo direttamente un PL e ci agganciamo la boomerang. Va bene, aspettiamo le bombe, dai. Ehi, trovi ragazzi, mamma mia, che ore sono, riesci a vedere? 5:15, bobo. Ah, volevo dire una cosa, mi è sfuggito, mi è passato di mente. Vabbè, quando me lo ricordo te lo dico. Io stavo avanti, il cagnolino è rientrato alla base, ha fatto il percorso inverso e si è buttato di nuovo tipo cavicato, sempre giù. Ma il piccolo o il grande? No, il piccolo, che era uscito verso l'esterno e è rientrato alla base. Ok. non si sa mai che ci siano altri problemi, ha deciso di tornare a casa. Gli amichetti sono andati via, quindi è rientrato dal resto della sua famiglia, perché all'interno c'era una grande, una specie di mare mano, un incrocio là, tra Viale Umberto e Viale Dante, e poi un altro nero, sempre un meticcio là. Dai, come si dice, un incrocio a raso? Un aschi pezzo, amico. Cro. Dai, sono tutti belli per cagnolini, sto scherzando. Poi quando sono piccoli. Però il nero è più tranquillo. Il marroncino è un turbacchione, è sempre di evasione. I meticci, quelli cani di strada, quelli veri, già sono poco zolloffi. Aspetta che mi metto in movimento tra un po', vai, così vediamo un po' come mi ascolti in movimento, se aumenta qualcosa, se ti finisce. Ehi, aspetta che vado a farmi una sigaretta, 30-40 secondi. Ehi, io sono slippata praticamente. Eccomi. Mi sto muovendo, quindi forse se cambia qualcosa da qua. E hai messo gli occhiali? Ehi, per adesso sei tale quale a prima. E quindi pensavo di essere... Se sparava bene ugualmente, dai. Tale quale spiccicato prima. No, tu stai aumentando invece. Sono contento. E qua comunque la cosa c'è la canna a me, squalo. Tutti pescatori, ragazzi. Allora, pescatori di secco. Pescatori d'aria, di onda radio, dai. Va bene, perché come antenna che si piega un po' troppo col vento, molto flessibile, però non fa rumori, non fischia, è molto silenziosa sul tetto, non dà problemi ai condomini. Guarda, il fatto che sia abbastanza flessibile secondo me è un pregio, così almeno insomma bella resistente. Ma l'altro giorno mi sono trovato, me l'ha buttata sotto al correzione, è rimasta incazzata, figurati, che io non ce ne basta a casa. Si è fatta a forma di archetta, così è. La segata si è incantata sotto, questo è pure, ma la lascio così, che almeno è riparato dal vento. Poi se lo fa un po', poi nuovamente, quando è bravo, il canale. Adesso sei Santiago 9. E tu sei sceso lo stesso, Sì, adesso sei calato. Di, insomma, più o meno 9, dai. Adesso sto pronto. Cosa sembra? L'importante è sentirsi. Qua uscire tra i 9 e i 9:20. Conta che l'antenna non è solo capo adesso, perché la posizione migliore sarebbe stata quella lì, però la capo, dobbiamo trovare una soluzione. No. Poi cazzo bucare la capota, cro. A meno che non abbia già la predisposizione per l'antenna dell'autoradio. No, negativo, no, non ha nulla. Adesso l'ho messa dietro praticamente all'altezza della rotta riscossa e sporge sopra la capota, sporgerà un metro quasi, dai. Ma cosa c'è, fuori strada? Capa una specie di fuori strada, là. Bene, merda, sì, se l'hai fissata al portaruota hai fatto bene. Adesso ti stavo ascoltando un po' più bacchino. Sì, ho messo una tappa nel dado che regge il portaruota. io ho messo l'attacco dell'antenna. Ho capito, dai. Una staffa più o meno come quella che hanno i gipponi dell'esercito, dai, più o meno così a grandi linee. Ho preso un del ferro piatto, della linea un po' robusta, e l'ho tagomata. L'ho fatta uscire proprio tra lo spartellone e la rossa. Ho capito. Bene fatto, bene fatto. Questo problema è che l'antenna la devo togliere prima, devo toccare l'antenna. Vabbè, dai, basta stare attenti. Già in acciaio, è molto preciso, un tiro precisissimo. Quando faccio fuori strada, quando la uso fuori strada, io sto sempre dentro, quindi a togliere una manichetta e la togli subito l'antenna. Ho capito. Ma quanto è lunga l'antenna, Fra? Un'1,70. Una macchina. Ho dovuto mettere l'accordatore per recuperare il taglio che avevo fatto. Ho capito, dai, più o meno come l'antenna che ci ho piazzata su, forse quella che ho io è 1,80 circa. La misura è più grande, questa non ci arriva abbastanza. Adesso poi sono arrivato a casa, prova a parlare. 1, 2, 3. E qui sei ancora più forte. Tu sei 9,20 abbondante qua, Capo, penso di andare a rivederti pure. Alla stazione. Sono molto vicino alla stazione. Più o meno te lo puoi dire, quindi vedo un po' dove sei. Guarda, ci sono i due palazzoni identici da una parte e dall'altra. Ma uscendo dalla stazione, uscendo verso la piazza, sei a destra o a sinistra? Beh, alla destra io. Quindi verso via 25 aprile? No, opposto. Ah, quindi uscendo sei sulla sinistra, verso piazza Sant'Antonio, là. K. Quindi siamo vicini, dai. E adesso ti dovrei vedere da qua. Bene, bella. Aspetta, Dani, non è un po'... Quindi le ho tolte praticamente con la cosa attorno. Ok. Adesso... ci avevo volato. Ah, ecco, devo mettere a posto l'altro microfono, sennò rischio di fargli fare fine brutta, dai. Ascolta, se sei ancora qua provo se così mi volete insegnare, non mi puoi attenuare, vero? No, non ho questa possibilità adesso. Volevo provare la base magnetica per vedere se cambia da sopra la capota con la base magnetica oppure dietro attaccata alla stampa, se c'è la differenza. Così a occhiometro sto cercando un punto di riferimento nello smitter. Dai, prova, dai, vedi un po' se... Vorrei sapere il punto e io provo pure a attaccare l'altra. K. Dammi un paio di minuti, dai. Ce li hai? Sì, vai tranquillo. Vieni, Fra, vai. Aspetta, devo accordare. Vedi un po' come va? E adesso così sei a fondo scala. Quindi rende meglio la base magnetica, caspita. Sì, praticamente sei qua, sei a fondo scala dello smitter. Vediamo un po'. Guarda tu che vedo il segnale. 1, 2, 3, il beep dà fastidio o lo lascio? No, non è fastidioso. Io non lo posso neanche togliere su questo apparecchio invece. Ok, dai, come risulta? Sono buono, anzi quando molli il beep c'è un aumento anche di segnale, cioè va verso il fondo scala, va. Bene Meda. Va bene. Sai che sono un po' deluso che rende meglio la base magnetica dell'antenna attaccata alla stampa, è inutile, c'entra la capotta. Tu figurati se invece della magnetica l'attacchi proprio come si deve, gli fai un bel piano di massa, li graffi sotto la capotta e la fai aderire bene alla lamiera. Vabbè, è sicuro che la carrozzeria fa la piano riflettente, quindi sicuramente ne guadagna di più. Poi questa base magnetica è anche abbastanza larga, infatti ha le righe la macchina sopra per non ammaccarsi la capota, ha delle righe distanziate da una decina di centimetri, forse anche di più, e lei non ci sta perché è troppo larga, infatti non aderisce bene, dovrei metterla un po' più avanti verso il vetro anteriore dove lì invece non ci ci sono le righe di rinforzo, dai. Ho capito, sì, ha guadagnato di brutto. Dai. Grazie, dai, stacco tutto, io rientro al QTH. Grazie di tutti i controlli. Bene veda, dai, ci aggiorniamo, ok? Ok, alla prossima. Ciao Fra, alla prossima. Attento, Gianni. Eia. Ci sei? Avanti. C'è un bel scarico di pompe di calore oggi. Pompe di calore? Ehi, rumore elettrico. Tipico rumore delle spatole dei motori elettrici, da. Ah, ho capito. E te lo porti anche appresso quando ti ascolto, capito? Ah, ma adesso mi sfugge, ma ce l'hai da te o da me? Ah, no, ce l'ho io. Ce l'ho, perché l'antenna è proprio attaccata alle pompe di calore. Sarà neanche un metro. Ah, cappa. No, perché, vabbè, io c'ho il baracchino vicino al monitor del PC, quindi pensavo ci stessi riferendo a me. Però, guarda, se io tolgo il filtro, sento più casino, però quando parli ti ascolto meglio, paradossalmente. Se invece inserisco il filtro, non sento rumore di fondo, però quando parli te lo porti appresso. Cioè, non so, però funziona così. È tutto all'inverso. Sì. Cioè, no, se le ascolto le scariche, diciamo, quando non parla nessuno, le elimina in automatico quando parli. Se invece inserisco il filtro, me le togli all'inizio, però me le rilamo quando parli, in modulazione. Ho capito, è come se chi... È come praticamente che quando arriva il segnale se le porta appresso, dai. Non lo so, l'ho tolto e ti ascolto meglio quando parli, dai. Pazienza, metto lo squelch così mi elimino la... Lo squelch ce l'hai però quell'apparato, sì, almeno quello ce l'hai. Sì, lo squelch sì. L'avevo già inventato, dai. Sì, guarda, c'ha il volume, lo squelch e il commutatore dei canali, boh. Eppure qualche giorno me lo fai vedere in foto, dai, ci scambiamo i numeri. Ehi, guarda, se vuoi te lo passo anche adesso, non ci sono problemi a dartelo qua in frequenza. Aspetta che devo andare a prendere il cellulare, Kappa. Vai. Allora, sei pronto? Kappa. Allora, 3, 4, 9, 2, 1, 0, 3, 3, 6, 8. A posto? Kappa. Non c'è la segreteria, c'hai? Aspetta un attimino. No, fra, il telefono è acceso, è normale, è funzionante, insomma. No, non ho segreteria. E dopo riprovo, dai. Così se mi fai uno squillino ti memorizzo anch'io. Ok, arrivato. Ok. Perfetto. Ascolta, ce l'hai tu l'applicazione Telegram? No, negativo, infatti ti ho sentito l'altro giorno che chiedevi anche agli altri, no, negativo. Guarda, forse più, a parte che è più stabile di WhatsApp, è più discreta, non è, cioè, molto più tranquilla come, praticamente ha le stesse applicazioni di WhatsApp, è appena appena meno conosciuta, risulta un po' più discreta, non invasiva come WhatsApp, però ha le stesse funzioni in sostanza. E niente, è facilissimo da installare, perché io in questo momento, siccome il mio telefono è un Microsoft Lumia, praticamente a Windows come sistema operativo. Siccome da qualche mese praticamente la Nokia si è ripreso, praticamente la Nokia aveva venduto a Microsoft, poi Microsoft adesso da un po' si è sbarazzata dalla Nokia e quindi praticamente non ho la possibilità più di aggiornare il mio telefono e di conseguenza ho alcuni problemi con determinate applicazioni, soprattutto con WhatsApp, capito? Però su Telegram viaggia bene. Niente, ecco perché te lo sto chiedendo. Adesso provo a installarlo, dai. Guarda, è quasi uguale a WhatsApp. Ti ripeto, non è così invasiva, non è così pesante. Ti gruppo WhatsApp, però ha le stesse funzioni in sostanza. È che non è mai capitato, Guido. Tutti i miei amici hanno tutti questo, questo cosa, come si chiama? WhatsApp. Comunque l'applicazione, l'applicazione è molto simile a tutte le funzioni che c'è WhatsApp, c'è anche Telegram. Diciamo che praticamente è una sorta di concorrente. Funziona bene qua, ti ripeto, non è così pesante come, come WhatsApp. Aspetta un attimo. Ok, dai, ti ho salvato. Ti ho memorizzato anch'io. La sto configurando. Ehi, ehi. Ce l'hai acceso? Sì, sì. Te l'ho inviato. Ehi, guarda, il vantaggio che c'ha Telegram rispetto a WhatsApp è che tutte e due si possono installare sul computer, no? Quindi volendo puoi messaggiare anche dal PC. Su Telegram non hai bisogno praticamente del una volta che lo scarichi e lo configuri nel PC, il telefonino può stare anche spento praticamente. Mentre WhatsApp praticamente per funzionare sul computer ha bisogno del telefono praticamente connesso al PC, se no non va, capito? Quindi la differenza positiva di Telegram è che funziona anche se hai il telefonino spento. Ecco, basta, ma non rispondo al telefono adesso. E adesso vabbè, io Telegram lo sto aprendo dal PC. Riesci a mandarmi la foto dell'apparato? Aspetta, qualche minuto. Scappa. Ecco qua il tuo messaggio. Vediamo se riesco a... aspetta che mi ha mandato un messaggio Daniele. C'è un suono ma non ha registrato nulla, ragazzi. Sì, ti mando la foto di questo valvolare che sto che ho aggiustato, dai. Eia, io sto cercando di farti vedere la foto del mio baracchino là. No, è molto simile, Aspetta un attimino. Ho aperto la foto adesso. Gemitronic, sì, l'ho vista su eBay questa radio qua, quella grande sotto. Mi dispiaceva vederla buttata insieme ad aspirapolvere, ma roba così, gli ho chiesto e me l'ha data, dai, gli ho pagato a parte, perché lui stava vendendo tutto in un blocco. Ehi, sì, l'ho vista su eBay questa, la radio uguale a questa. Adesso non ti voglio dire cazzate, adesso mi ricordo a quanto la stavamo dando. Ma io ne voleva 30, gli ho dato 20, ma se li vale tutti, anche se non è restaurata, magari c'è qualche graffietto, il microfono non è originale, qualcosa ce l'ha, dai. Ehi, a cazzo, me la vai. Cioè, se è onestissimo, come prezzo è onestissimo, mentre quello di sopra che cos'è? Un Superstar? È un Super Galaxy, quello che sto usando adesso, dai. KKK, anche quello l'ho visto su eBay. La roba anni 70-80, Ehi, aspetta che sto cercando di mandarti la fotografia. Mi fra, ti sto mandando l'immagine del mio baracchino. Sì, mi sa che sei arrivato. No, stavo guardando la lista dei contatti. Praticamente mi dice che in tanti ce l'hanno sui miei contatti, dai, installato questo programma. Ho capito, sì, perché come lo installi lui ti suggerisce se eventualmente li vuoi aggiungere. Sì, più o meno è come WhatsApp. Io mi ci trovo, lo preferisco, dai, per certi versi, a WhatsApp. Sono molto simili, dai. Ti è arrivata la foto? Sì, forte, è piccolino, giovane. No, a me piacciono le cose antiche. È giapponese, gli anni 70. Sono riuscito a trovare lo schema elettrico anche su internet. Quella vite che c'è sulla sinistra, sul Nike, cos'è? L'hai messa tu o era così? No, praticamente no, era già così. Praticamente evidentemente la vitina sua è stata persa e qualcuno ci ha messo quella vite più lunga. Ho capito, io bisogna buscare una vitina da qualche apparecchio, qualche sveglia, roba un po' miniaturizzata, boh. così va scomparsa, perché lì c'è una testa svasata, e scompare nell'incasso così. Sì, sì, infatti no, c'è un barattolino con un po' di vitine, infatti adesso che è smontato magari lo svuoto, lo cerco meglio. Allora, ho visto che hai messo un'altra foto, e c'è sulla destra quello nero, cos'è, un lineare, no? Ma non si dice. Sì, ma non si dice così. Vabbè, cazzo, mi è uscito. Ci hanno tutti, dai. Quindi. Per l'inverno, l'attacco quando c'è freddo per scaldarmi l'ambiente. Ho capito, le ventoline, quelle, le stufette, quelle per l'inverno, dai. Ma io che ventilato davvero, Sì. Poi succede l'accordatore d'antenna. L'ho visto. E quello, quella cosa rossa cos'è? Se si può dire. Sì, lì quello è un portatile, per un'altra frequenza, dai. Ho capito. Bene, meda, dai. Già sei messo bene. Vedi, minimo sindacale questo qua. Se ne vedi. Ho visto. Claudio mi ha mandato una sua foto e caspita, roba seria. Immagino, poi siamo lui insieme a Walter, quasi collezionisti sono. Sì, molto belli gli apparati, molto belli. È che bisogna farli girare ogni tanto. Ma ho visto che li fa girare quasi tutte le sere, quindi non ci sono problemi. Se no, io questi qua erano qualche anno fermi e qualcuno qualche problemino lo dà. Qualcuno addirittura è migliorato, perché per esempio questo, le frequenzimetro erano 5-6 anni che non funzionavano. Quest'anno l'ho acceso, fatalmente è ripreso a funzionare, quindi si legge di nuovo la frequenza e tutto. Ma il piccolo e il grande dici? No, il piccolo, il grande c'ha solo i canali e basta. Tipo il tuo, quello, il portatile. Questa invece è la stazione fissa, c'è il trasformatore all'interno e valvolare, è 220. Ho capito. Hai visto, ogni tanto si inscettano, track, si mettono a posto da soli. Sì, no, questo valvolare quando lo accendo sembravano i fuochi artificiali di Bannery. Con tutto il rubiuvalo, magari umidità e cose del genere dentro, è chiaro che come poi valvolare buro, cazzo, figurati, cazzo, praticamente i fuochi artificiali alla rotonda, dai. Bella, di Alghero. Quindi per quello che gli ho aperto poco, male che ci perdo un paio di decine di euro. E invece poi smontandolo tutto, pulendolo con un po' d'attenzione, ha fatto qualche carica all'inizio finché sono assestate le valvole, poi da quel giorno va bene, dai. E quello che potenza c'ha? Il valvolare? Sì, quello grande. No, quello 5 watt normale da, non di più. Ah, ok. Quindi proprio base in tutti i sensi, da. Sì, si è separato le basi proprio. Sì, questo è proprio, tipo non è omologato perché non penso che. Però allora, all'epoca era così. Ma sicuramente la potenza massima da usare erano i 5 watt. Anche oggi è così, Invece quello di suo è leggermente più potente. Quello lo so. Sì, no, quello di su è già carino, lo stavo vedendo su internet, e ho visto che insomma che è valutato ancora bene, dai. Ma non so quanto possa essere valutato, l'ho un po' premuto di watt, adesso riesco ad averne 20 di portante e 30 modulati, dai, anche in banda laterale. Sì, già lo fa il suo tanto, dai, voglio dire, non sono pochi, non sono tantissimi, però non sono neanche pochi, Ma se lo usi in macchina questo va bene, perché ti dà qualche watt in più, un foglio di carta in più, dai. Ho capito, ma è sempre meglio di 5 watt, dai. Beh, sicuramente, se hai un po' di dispersione recuperi qualcosa. Certo, è come i cavalli nella macchina, no? Se ne hai qualcosa in più già non li disprezzi, anzi, sono ben accetti. Ma te mangino e bevano poco. Eia, che poi il discorso è anche saperli usare. Sì, il piede, cosa conta il piede? Lui. Il piede questo c'è il cambio automatico, non ero abituato, consuma un po' di più, specialmente in città, perché sale più di giri nelle marce basse. Poi una volta che sei su strada lunga si inserisce la setta, l'overdrive, allora iniziano a calare i consumi. Infatti questa consuma di meno se passi i 100, se rimani sotto i 100 consuma di più, la mia, dai. Ho capito, sì, vabbè, chiaramente quella, tra virgolette, non difetti, diciamo che la caratteristica delle macchine automatiche è quella, cioè risparmia di volo in praticità, insomma, per tutta una serie di cose, però praticamente il cambio di giri, cioè è tutta un'altra serie di cose, praticamente fanno sì che i consumi salgano un po'. Sono macchine americane, loro sono abituate a strade lunghe, quindi non è come la Sardegna che è tutto curve. Ho capito. Dai, a me il vantaggio è che se devi fare strada, una volta che devi fare, insomma, chilometri, si risparmia, dai. Sì, sì. Scendendo a Cagliari riesco a fare anche i 13-14, dai, non di più. La media comunque, qui quando sono usato l'acqua a Sassari, sono la media di 10 al litro. Ma è a gasolio, sì? Sì, gasolio. Ho capito. Ma quattro ruote motrici fisse o disinseribili? No, posso andare due ruote motrici posteriori o quattro per quattro col bloccaggio del differenziale, 4x4 normale, tipo quando vedi che c'è terreno un po' viscido che sta iniziando a piovere, la casa ti consiglia di mettere il 4x4 senza blocco, però quindi c'è una leva praticamente a fianco al cambio, devi fare due scatti, perché nel primo c'è il blocco, nel secondo c'è il 4x4 senza blocco di differenziale. Poi fa un movimento sul lato sinistro, tiri ancora indietro e c'ha le ridotte col blocco del differenziale. Ho capito. Le gomme cosa sono? Un misto? Cosa sono? Molto estremi oppure sono più stradali che da fuoristrada? Quelle che posso mettere sono quelle classificate AT, all-terrain, quindi sono forse 30, 40, massimo 40% fuoristrada, il resto sono stradali, però si danno un bel grip, sono abbastanza scolpite, quelle scolpite le potresti mettere se fai fuoristrada, perché poi su strada lunga ti ammazzano il cervello dal rumore che fanno. E poi praticamente se le mangia tutte l'asfalto quelle gomme, cazzo. A parte che insomma, come dire, non è il massimo della vita. No, perché ne ho visto certi veramente con gomme molto estreme, poi magari le hanno messe giusto perché dovevano andare da qualche parte, quindi un pezzo d'asfalto dovevano farlo per forza. L'ideale sarebbe avere due treni di gomme, il giorno di fare l'uscita con gli amici, dai, fuori strada. Tipo quello che ho fatto l'altro giorno, organizzato dal club di Itiri, abbiamo fatto una bella escursione e quindi ho visto fuori strada allucinante, cioè praticamente il piano, diciamo, di calpestio della macchina dove appoggi i piedi era un metro e dieci da terra, 1,20 m, senza lì ci voleva la scaletta. Cazzo, tipo Bigfoot, cazzo, cioè siamo a quei livelli allora. C'erano un paio di macchine del Norese, sono arrivati da Nuoro appositamente per il raduno, ma erano veramente estreme, infatti loro hanno fatto anche i passaggi, perché lì ci sono vari passaggi, ci sono quelli hard e quelli, diciamo, più accessibili a tutti, diciamo, cioè a tutti, sempre, tra virgolette, tutti quelli che hanno un fuoristrada. Poi chi ce l'ha abbastanza alto da terra può affrontare i percorsi hard. Qui ho fatto anche un guado di un fiume e ti dico che l'ho passato bene, anzi pensavo che andasse che si fermasse, invece ha chiappato bene, ero anche in quattro in macchina, borsa a frigo piena. Sì, ho capito. Vabbè, come anche in altre categorie ci sono svariati livelli di difficoltà, quindi immagino che ci siano anche lì vari requisiti, vari standard di difficoltà, quindi non tutti chiaramente possono superarli. No, no, infatti lì all'ingresso c'è sempre uno dell'organizzazione che ti dà lo sguardo alla macchina e ti dice dove vuoi andare, gira a sinistra tu vai, che sono quelli questi già attriviti che vorrebbero passare e poi magari fanno danno che si bloccano in mezzo, ma rimangono in bilico con la pancia sopra un masso e insomma se ne vedono di tutti i colori, dai. Scusa un attimo Fra. Sì. Mi sono dovuto allontanare un attimo per un imprevisto. Non c'è problema, no problema. Oh, io via. Mia gana, ghinnaggio, cro cro. Volevo dire un'altra cosa. Cazzo, oggi proprio un capo. La testa è assente praticamente. Oh, io invece ho finito presto stasera. Dovevo finire alle 10 stanotte, più invece ho... abbiamo abbreviato i tempi, fortunatamente, grazie anche ai colleghi che hanno ripristinato l'impianto dei PL, dei passeggeri bello lì alla Bretella. Là. Ah, ok. Dalle parti sulla tratta per Alghero cosa si dice? E ancora stanno facendo lavori, ci mancano ancora i collaudi delle travate metalliche, dei punti in ferro. Ah, quindi è ancora, cioè, cosa roga come ti si dice? So, dipende da queste imprese. Aspettiamo. Anzi, mi sembra che da domenica il servizio sostitutivo l'ha preso di nuovo l'ASP, prima ce l'avevano delle ditte esterne. Sì, infatti stamattina sotto casa c'erano i nuovi bus dell'ASP, della Ifeco, nuovi proprio. Dove essere sono entrati in servizio da poco, proprio veramente nuovi, cazzo, proprio nuovi di pacca. Sì, ce n'erano tre stamattina sotto casa. Sì, sono arrivati da Cagliari. Potevamo farlo anche prima, ma avevamo risparmiato un pacco di soldi. C'era coso, Turmo Travel, quelli di Olbia mi sembra, che stavano facendo... ultimamente lo stavano facendo loro, perché prima c'erano, ho visto che insomma c'erano diversi, gli ultimi sono stati loro, e poi da stamattina mi sono accorto che insomma dei pullman nuovi dell'ARS. Sì, se non sbaglio da domenica hanno iniziato i colleghi, dai. Diciamo abbiamo fatto guadagnare un po' tutti, non c'è stato il monopolio, un po' per uno, dai. Sì, ho visto, sì, ti ripeto, adesso non mi ricordo gli altri, comunque ho visto che hanno fatto la ruota, dai. E infatti mi sono chiesto, cazzo, ma come mai, cazzo, cioè l'ARS si affida agli esterni quando ha praticamente i mezzi propri? Perché per fare cose in più ci vuole personale in più per fare i turni, capito? Quindi non puoi decidere da un giorno all'altro, devi attrezzare, devi assumere o devi fare un concorso per assumere altra gente. Sembrano semplici dall'esterno, ma non è così. No, immagino che non sia semplice. Però ho detto, cioè, mi sono messo questa domanda da ignorante, ho detto, ma come mai si affidino? Certo, a livello pratico, e visto che si tratta praticamente di una cosa temporanea, è chiaro che la soluzione migliore, su quello non ci piove. Però sai, visto che a livello di parco macchine e di mezzi, insomma, non credo che ne siano accorto, figurati. Quindi, sai, il primo ragionamento che ho fatto è quello. L'abbiamo fatto anche noi all'inizio, si poteva fare più velocemente, dai, cioè, meno più celere, ma purtroppo nelle grosse aziende i tempi sono sempre biblici. Figurati. Adesso... sì, avevo letto che dovevano arrivare mezzi nuovi, che ne avevano presi, non so, un tot, adesso non mi ricordo quanti. E niente, dove si sta male? Ormai sono cambiate un sacco di cose con la quale è subentrata questa azienda. Prima, non so, si voleva un tubo di un macchinario, un tubo a alta pressione, no? Andava alla BAT e te lo davano. Oggi invece devi fare tre preventivi diversi, cioè puoi valutare qual è il migliore, quindi figurati il tempo che si perde e la macchina rimane ferma. Immagino, poi quando sono commesse così, quando sono insomma che girano un sacco di mezzi, aumentano anche i problemi. Questi nuovi sono svizzeri, sono abbastanza affidabili, per adesso ci sono pochi anni, i treni sto parlando, eh. Quelli bianchi e rossi, ho capito. Sì, sì, li vedo spesso. Diciamo, abbiamo fatto un bel salto di qualità rispetto alle vecchie littorine. Che ancora camminano, qualcuna c'è ancora che ogni tanto fa qualche cosa sostitutiva o va nel turistico. Abbiamo ancora locomotori, quelli diesel elettrici, con tanto di carrozze, anche quelli per fare sempre le linee turistiche. Ehi, ascolta, ma sì, una litturina l'ho vista qualche settimana fa in funzione, ma quante ne sono rimaste le litturine adesso? No, nei parcheggi li abbiamo, adesso qualche decina c'è ancora, funzionante, poi ce ne sono varie non funzionanti, comunque le usano forse per prendere pezzi, boh. Ho capito, ma le litorine hanno un doppio motore di derivazione camion, giusto? Sono motori Fiat, invece i locomotori sono Isotta e Fraschini, i locomotori sono diesel elettrici, praticamente il locomotore ha un motore che fa girare un generatore elettrico, no? La trazione quindi è elettrica, vanno anche abbastanza bene, invece le ADM, quelle meccaniche, lì c'è il motore meccanico e basta, non ha generatori, e sono, infatti le motrici, sono quelle, le ergonci dalle marmite, che sono le marmite sopra, là. Ho capito, sì sì, mi ricordo, adesso, una volta forse tempo fa, per conto della televisione, mi sembra che avessimo fatto qualcosa con le vecchie strade ferrate sarde, mi pare, o Ferrovie della Sardegna, In sequenza, prima strade ferrate sarde e poi FDS. Sì, poi le rimorchiate invece sono, sì, vengono allacciate, dai, attaccate, però non hanno marmite, quindi quelle sono solo rimorchiate. Praticamente sono delle carrozze con la forma di quelle col motore, dai. Sì, sì, perfetto, così. Ma anno di costruzione delle litorine, di cosa parliamo? Guardi, nella pensieria, però penso 70, una settantina d'anni, però ripeto, prendilo con le pinze, con le molle. Perché mi ricordo che c'è una piastra in alluminio all'ingresso dove sono le porte, in basso, praticamente mi ricordo che lì c'è la marca, l'anno di costruzione, il modello, però adesso ho difficoltà a ricordarmi di che, cioè, più o meno di che epoca sono. Vabbè, si chiamano litorine per via del ventennio fascista, quindi presumo che siano di quel periodo. Sì, però sono vecchi, neanche io, non ricordo neanche io quella. Sì, mi ricordo la piastra, ma l'anno no, neanche io. Poi, vabbè, di quel sistema lì, insomma, a livello di litorine c'erano anche quelle grosse delle ferrovie dello Stato, che erano marroni e nere, che più o meno avevano la stessa forma, erano più grandi perché chiaramente lo scartamento era più grande. Penso che te le ricordi anche tu quelle, no? Sì, sì, mi ricordo tutto, quelli con motori, quelli marrone e verdi, mamma mia. No, io parlo delle litorine, quelle delle ferrovie dello Stato, quelle grandi, quelle tutte marroni con la striscia nera in basso. Le avevo viste praticamente ferme, ma ti parlo di anni fa, prima di entrare a Porto Torres, lì ci sono tutta una serie di binari, avevo visto un paio di quelle vecchie litorine lì con tutti i vetri sigillati. Sì, sì, mi ricordo, le avevano lì accatastate, messe in disuso. Praticamente dove c'è quel ponte, c'è un ponte dove passa un fiume, dove parti lì. Eia, sì sì, per andare alla zona industriale, dai. Sì, sì, me lo ricordo, quelle marroni, sì. È molto simile alle nostre, perché anche le nostre prima erano di quel colore lì, Marrone, mi sembra marrone con delle strisce rosse, se non sbaglio. Diciamo che erano un color sabbia, dai, con delle strisce rosse. Stavo facendo un altro tipo di colore io. Ho capito. Ci meglio non dirlo, però dai. Non mi deve mai sputare nel piatto dove si mangia. Ho capito. Va bene, là. Era giusto per fare un po' di come si dice? Adesso non mi viene in mente. Ricordimi. Ecco quanti. Aspetta che guardo su internet se trovo l'anno di quelle elettorine. Eia. Qui mi dice del 58, mi dice. 58? C'è un articolo qua, la Sardegna elettorine del 58. Caspita, io credevo fossero più vecchie. C'è un video, sto guardando il video. Sì, sono queste, sì. Vittoria del 58 mi dice. Ti mando il link. Eia. Forse avevo già visto qualcosa. Comunque manda. Sei arrivato? Sì. Aspetta che sto guardando l'anteprima. Queste sono molto simili, cioè, a quelle che girano. Adesso non mi ricordo dove. Non qua a Sassari, cioè non in provincia. Aiutami dai. Non so, comunque queste non sono di Sassari perché noi non abbiamo quella fare sopra, vedi che c'è una specie di. Forse gli hanno aggiunto la reclusionata che noi non avevamo. Stavo dicendo proprio quello, infatti non ho. La differenza è proprio. Ci siamo capiti comunque, dai. Sì, però sono le stesse macchine. Cioè, a occhio cioè, già si vede. Sì, sono uguali. E quelle. Adesso non mi viene. Gira, cosa girano? In Ogliastra, se non sbaglio, no? Ci sono Macomer, ci sono Macomer Bosa, poi ce n'è nell'Iglesiente, Cagliari, la zona lì, Arbatax, sono quelle linee lì. Vabbè, difficoltà, forse adesso me lo sta caricando. Mentre, quelli invece, cioè, che non ho più visto praticamente, quelle macchine che stavano girando, che giravano negli anni 90, sino al 2000 e rotti, non, che fine hanno fatto? Quelle un po' squadrate? K. E quelle le abbiamo mandate a Cagliari se non sbaglio, ma com'è, una cosa dei due. Le abbiamo scambiate con i treni nuovi praticamente, noi abbiamo preferito questi nuovi, loro le interessavano invece quel modello lì. Ho capito, perché sino a qualche anno fa, prima dell'avvento di questi nuovi, c'erano quelli lì in uso. Sì, anche quelle erano diesel elettriche, come queste che ci sono adesso, però con meno tecnologia, qua c'è un po' più di tecnologia, tutto elettronico. Me lo posso immaginare, già si vede che è roba seria. Sì, che funziona, poi sono ben silenziosi, vabbè, sono nuovi ancora, quindi assorbono bene le aspidità, diciamo, del tracciato, anche se ormai le rotaie sono quasi tutte saldate una all'altra, non è più come prima, non so se ne avevamo già parlato altre volte. Sì, me l'avevi specificato. Io mi ricordo quando c'era il trenino verde con la locomotiva che si fermava, cioè che partiva proprio dalla finestra qua di cucina, dovevi chiudere tutto, che ti pienava la casa di fumo. Infatti già l'ho vietato, era anche il terrore dei pastori perché dove passava incendiava tutto, partivano questi di carbone acceso, la pillide, un vulcano. Però era carino quando partiva il trenino con i turisti, cioè già era carina come cosa, dai. Ormai sono già parecchi anni che non. Sono ferme, le hai viste dove sono ferme qui in piazzale, dai? Sì. E mi ricordo addirittura anche il nome. insomma, perché poi hanno il nome, quelle cose di una me lo ricordo sicuro. E qua mi sembra che ci sia l'aereo, una mi sa sia l'aereo. Guarda, non ti voglio dire cazzate, una iniziava con la E. E poi, eh? E il nome iniziava con la E. Ah, ti ricordi solo la E? Non ti ho capito, scusami. Ti ricordi solo la E? No, mi ricordo tutto il nome, ti sto dicendo l'iniziale. Ah, non lo so, una c'era anche, forse Elsa. K, positivo. Sì, sì, anche quella. Mi ricordi anche la Euro, poi c'erano le altre, non mi ricordo. Eia. Sì. Elsa, infatti. Qui è una bella casa di fumo. No, già sono cose carine, dai. Ehi, aspetta, tra un po' non ci sarà più nessuno in grado di farle camminare, quindi, di farle muovere, perché ci vuole la gente veramente con le contropalle, come diceva prima. E lì devi conoscere un po' tutto, come lubrificarla, perché lì è tutto a miele, cose varie. E quindi se sbagli qualcosa si pianta tutto, si blocca tutto. Chiaramente è una tecnologia completamente diversa da quella attuale, quindi ci vuole gente che conosca bene, soprattutto gente di vecchia scuola, dai. Sì, infatti c'era sempre un anziano quando si facevano questi viaggi qua, capace di tenerla in forma sempre. E poi dentro ci mettevano un po' di tutto, carbone, un po' di legna, qualcuno dice anche traversine ci mettevano dentro, era un inceneritore. Vabbè, me lo posso immaginare, cazzo, anche di un punto, tracce butti tutto, cazzo. Con la catalamina che c'era, altro che Euro 6 o Euro 7. sì. Vabbè, riciclo, dai, a livello di legname riciclo. Invece adesso per smaltirle dobbiamo pagare, devono pagare, dai. Ragazzi, mi ricordo quando passavo lì nella zona dell'agraria dove c'è il passaggio a livello, ti parlo di un sacco di anni fa, che c'erano depositate le traversine lì, ma ti parlo di un bel po' di anni fa, cazzo, ne affiago, da lontano si sentiva. Erano impregnate fino al midollo, prima le disidratavano e poi le emergevano queste vasche enormi, e quindi si risucchiava tutto fino al cuore della traversa, però duravano un sacco di anni, quelle di oggi che sono trattate con della cera, durano pochissimi anni, durano. Come più o meno, dai, come alcuni pali della luce, roba del genere, che per, insomma, per mantenerli più, insomma, per resistere meglio agli agenti atmosferici, da, che facevano quel tipo di trattamento. Mi ricordo una volta, adesso devo fare mente locale, non mi ricordo dove, uno spuntino in campagna, non mi ricordo di chi, qualcuno aveva dei pezzi di legna di quel tipo lì e ha fatto lo sbaglio di mettercela in mezzo per cucinare la carne, ma sapevamo un po' di tutto. Però c'è gente che racconta di tanti anni fa, ne hanno fatto spuntini con quelle traverse. Secondo loro, la teoria di loro è che dopo un po' che va via l'odore, rimane solo la brace, è andato via tutta la parte, diciamo, chimica. Invece l'odore si sente come? No, guarda, mi ricordo che ci avevamo buttato tutto perché era veramente immangiabile, cioè. Adesso, guarda, ho difficoltà, cioè, se mi ricordo, ho questo ricordo fugace, sto cercando di, insomma, già mi viene in mente, però mi ricordo questa cosa qua, dei pezzi delle traversine, ragazzi, ogni bucaria. È come la naftalina che per scacciare le tarme, mi. La catramina scaccia altri parassiti, altri vermi che attaccherebbero il legname. Ehi, fra un attimo che vado a cambiare l'acqua di olive. Eccomi. Bene, qui ti ho mandato la foto dell'antenna. Adesso l'apro. Se riesci a che l'ho fatta tipo un... come si dice? Tipo un selfie. Aspetta in giù il telefono, quindi ormai già si capisce com'è. Ecco, sì, lo sto guardando adesso. Dai, già, insomma, sei riuscito a fare bene la crocchia, dai. Poi quelle cose più piccole cosa sono? Quelle sono per le altre frequenze, 144 MHz, 440 e 500, cose varie, dai. KK, dai, dai, già è uscita bene. È uscita bene, chiaramente se, se riesci a metterla in punta sopra tutti già, già spara di brutto, ragazzi. Vedi, è attaccato al muro, quindi è anche troppo quello che fa, e poi vedi anche le pompe di calore, c'è anche una più su, una ce l'ho proprio a fianco attaccata. Sì, sì, vedo. Dai, dai, comunque da... già funziona bene, dai. Aspetta che cerco una foto da mettere nel profilo, perché no, ci vorrà una foto anche su questo profilo, vero? Boh, è a discrezione di, insomma, se uno vuole mettere la mette, se no è chiaro già io. Se riesco a togliere quella che ho nel su WhatsApp, la porto qua, aspetta un attimo. Eia. Un casino, che da quando ho bloccato il, come si dice, le foto, prima me le mettevo in automatica sul cellulare, no? Quelle di WhatsApp, adesso le ho bloccate in modo che rimangano sulla chat ma non sul telefono, e quindi adesso la foto non me la fa, non la fa prendere, dovrei di nuovo sbloccare il telefono, capito? Ok, ok, vabbè, dai, a tutti i dini. Con calma, dai. Ehi, aspetta che sto scrivendo un messaggio su Telegram a Daniele. Questo è il portatile che stiamo usando l'altro giorno. KK. Ho visto la foto. Sì, ma non me la fa prendere neanche da lì. Vabbè. Bella macchinetta, dai. Adesso ne cerco una online, dai, più o meno simile. Sto messaggiando con Daniele. ho messo una foto molto simile, dai. KK. Sto messaggiando con Daniele, anche lui c'ha Telegram, quindi magari se entra in radio vi scambiate il contatto, così, perché a quanto pare ha deciso di costruirsi la Game Master con la canna da pesca. Dai, è bello anche provarci, c'è una situazione, tutte quelle antenne che vedi le ho tutte fatte io a mano, cioè non saranno mai un guadagno eccezionale, tu conta che ce l'ho anche a livello di finestra, non ce l'ho sul tetto, sicuramente sul tetto hanno un'altra resa. Certo, aspetta, mi ha mandato un messaggio vocale che l'ascolto. Franco, dimmi. Daniele mi ha chiesto se posso girare la foto della tua antenna, cosa faccio? Sì, no, non c'è niente di compromettente, dai. Ma ripeto, su internet ci sono proprio anche dei video, mi sembra, passo passo come si fa. No, quello già lo sa anche lui, no? Cioè, mi ha chiesto, aspetta, mi sta scrivendo il telefono. Eccomi. Di K, sto guardando se c'era qualche schema più... fatto bene, infatti. Hanno dato lo schema a Claudio, te l'aveva inviato, perché io ancora non avevo il tuo numero. Non ti ho capito, Fra, dimmi. Il mese scorso avevo dato lo schema di questa antenna a Claudio per dartelo a te, che io non avevo il tuo numero ancora. Non mi ricordo. Comunque ho recuperato le informazioni da internet. Sì, perché ce ne sono vari tipi di game master, cioè, in base a quello che usi, al cavo che usi, poi avrà delle misure un po' diverse. KK, guarda, mi ha chiamato Daniele, dice che adesso tra poco accende anche lui, vuole entrare anche lui, così insomma ti chiede anche qualcosa riguardo all'antenna. Certo. Siamo qua. Adesso se riesco voglio girargli la tua. Aspetta un attimino che gliela mando. Ok, mandata. Sì, K. Tanto c'è qualche immagine migliore. Ehi. Hola. Ci sei, Daniele? K, eccomi. Ehi, ciao Franco. Tutto bene allora? Ho sentito che ti stai dando la concessione dell'antenna. K, Rogero. Sto pensando anch'io di farmela. Ma è tutto nella canna da pesca, la spesa è tutta nella canna, se ce l'hai. Io ho avuto la fortuna di averla in regalo da un amico, l'aveva trovata buttata in mare, una casa, una vecchia canna, e quindi l'ho utilizzata, una canna da 8 metri. Campa Rogero, io ne ho una lo stesso, anzi ne ho due di canne. Però una mi sa che è in carbonio, non sono sicuro, l'altra è cinese, non penso che sia in carbonio, non so quanto sia lunga, qua devo controllarla. Assolutamente è carbonio, no, solo vetrovetina. Kappa, devo controllare in questi giorni, vedere un po', e la metto in cantiere. E vediamo cosa succede. Ma sicuramente migliori alla grande. L'importante è la misura che superi, che arrivi almeno a 8 metri, dai. Eia, misura standard, diciamo. È una canna fissa, senza anelli. Le vecchie canne che usavano nei fiumi, boh. Anche al mare, quelle canne lunghe. Eia, Gianni. Ah, Gianni, Franco, stavo sbagliando i numeri. Sì, poi per il fissaggio, come la fissi? Con le staffette normali a U, al palo? No, io praticamente gli ho inserito nella parte bassa un manico in legno, tipo un manico di ombrellone in legno, per rinforzare la base. Poi quando tu poi li attacchi, io praticamente l'ho inserita in un tubo, tipo dove porta ombrelloni, dai. L'ho inserita dentro e poi c'è la farfallina che la stringe, quindi meglio che quando stringe che ci sia qualcosa di all'interno della canna, qualcosa di resistente, se no si sfonda, capito? Perché la devo mettere su un palo telescopico, capito? E la puoi, con dei collari, la puoi attaccare. L'importante è che la bobina sia sopra le parti metalliche, cioè sotto ci può stare il ferro, ma sopra la bobina sarebbe un avvolgimento di cavo, quello deve rimanere oltre il ferro, quindi per quello che ho messo il legno io, quello che è da isolarla dal ferro. Anda bene, Veda, va bene. Dai, facciamo riprendere a Gianni, poi non so che ci sia qua. Eccomi, Daniele, ti ho mandato la foto. Eia, ma la stavo guardando adesso già. Va bene, ok. Poi già c'ho misure, c'ho tutto. Mi manca solamente la canna, sia da costruire la canna per farla, se abbiamo fortuna. Ci sono quelli che addirittura la inseriscono all'interno, io l'ho messa all'esterno, però ho visto certa gente che certo non ha messo il cavo grosso per fare il condensatore o il sub, ha messo delle regi tipo il regi 58 o un HV, non so, sottile comunque, in ogni caso l'ha inserita all'interno, però variano le misure. Lì ci vuole già un altro progetto, quello non ce l'ho. Poi già mi guardo il video quando mi metto a costruirla. E vediamo un po'. Va bene. Dai, riprendi di nuovo, Gianni. Dimmi cosa ne pensi del microfono. Sto usando il microfono che mi ha dato Massimiliano. Dimmi cosa ne pensi. Dammi un tuo parere. Già, va bene, bella modulazione. Ottima per la truppa. Bene, Meda, più chiara ti risulta? Eia, già, più chiara. Prima, vabbè, è amplificato questo, giusto? Sì, ha la batteria interna, poi c'è anche il tastino per inserire o levare il bip. KK, anda bene, Meda, no, già migliorato, già comunque. Già va bene. Ok, bene fatto, dai. Un altro mattoncino in più. Avanti, Fra. Però dai, piano piano farai il tuo grattacielo, dai. Beh, la muraglia cinese mica l'hanno fatta così di botto, cazzo. Piano piano i mattoni li hanno portati a uno, cazzo. I cinesi addirittura sono arrivati prima della Russia sulla Luna. Uno sull'altro, un cinese, due cinesi, tre cinesi. Eia, se battono i piedi contemporaneamente, cazzo, chissà dove ci usciamo. Se fa l'antenna, devi fare. Bene Meda, dai. Adesso vabbè, Fra, chiaramente se si può dire, ma giusto per Daniele, per dare un riferimento a Daniele, adesso la potenza che stai usando tu è proprio bassa, giusto? La mia? K. Sì, quella dell'apparato. Ok, quindi di un apparato omologato, giusto? No, qualcuno in più, dai, l'ho detto poco fa, no. quello che c'è su sto usando adesso. Ma vabbè, non perché lo voglia sapere io, era sicuramente magari un'informazione in più che sarebbe utile a Daniele, capito? Sì, ma adesso sono una ventina, l'importante. Capa, hai sentito Daniele? Capa Rogero, e quanti watt porta quell'antenna? Ma questo dipende dal cavo che utilizzi. Ho letto, mi sembra sui anche 500 watt ho letto, dipende dal cavo, se metti il cavo buono. Capa, e poi devi usare il cavo da 3 o da 4, così è. Mi hanno provato a non mettere anche nel cavo grosso, non cambia nulla, io comunque un cavo da 3 va bene, non esagerare. Capa, e poi ci vuole il 213 e il 58, giusto? Sì, io l'ho fatta con quel cavo lì, però il 58 che ho usato non era un granché, ripeto, l'ho preso la GBC, ma avrei fatto meglio usare il cavo vecchio che avevo, che c'era più rame. Questo non sono rimasto molto soddisfatto, però era una prova ed è rimasta così. Dovendo fare un'altra userei un capo migliore, dai. Andava. Perché poi devi fare alcuni accorgimenti magari. E la resa sarà pure migliore. Va bene, meglio così, dai. Io sono in attesa che mi ritorni il mio gioiellino, tra virgolette, che è dal dottore. Ah, il... come si chiama? Quella... con l'eco? Ecco, bip. Ecco, colta, cos'era? Ehi, già è lui. È in cura dal dottore. Qui a Sassari? No. Sono un'altra persona. Adesso spero a fine settimana andare a ritirarlo. E vediamo un po' cosa dice, se arriva questo pezzo. Cosa ce l'aveva? Te l'ha già detto? Te l'ha già preventivato? Sì, era la scheda del bip, in poche parole, che stava dando i numeri. E vuole nuova, non si può riparare? Beh, la riaprendo nuova e ciccia. E via, le ho già ordinate e tutto, tanto per quello che costa. Sì, infatti come componenti non è tanta la spesa, è che per modificarlo ti chiedono una barca di soldi. Ma ne approfittano, tra virgolette, ma è che la componentistica in sé, quando prendi la basetta già fatta, un 50 euro te ne esci. Cioè tutto, dall'eco alla scheda bip, tutta unica. Beh, non è il tuo caso, il tuo era già modificato, quindi doveva fare solo questa sostituzione e basta, dai. Poi la cosa importante, poi le saldature, quelle ci vuole un bel saldatore, che sennò ti rimangono un po' fredde, tipo le mie, non sono riuscito a fonderle bene, però ancora sta andando. È così. E poi le ho fatto togliere un po' di mondezza che le avevano messo, capito? E quindi l'ha portato a livelli umani, gli ho tolto un po' di fesserie, diciamo. E va bene, dai, riprendi Gianni. Eia. Noi stavo guardando le foto che mi ha mandato Franco, della stazione. Il microfono mi incuriosisce. Che marca è, Fra, se lo puoi dire? Sì, è uno Shure. K, ok. Bene, meda. Neanche un secondo. Non se ne trovano più in giro, boh. Anche se vai su internet, addirittura neanche il modello trovo. Qualcuno ti ha sovramodulato. Avanti. Scusa, ero io. Bianco un secondo, riprendo subito. Ho detto che ormai non ne trovi più neanche su internet di questi microfoni. Sì, si vede che è molto vintage. Anche il Tarnay più 3 da tavolo sempre, si assomiglia un po'. Sì, più o meno hanno... Questo è un po' più squadrato, l'altro è un po' più tondeggiante, dai. La capsula questa è quadrata, quella è tonda, però siamo lì, Sì. Vabbè, adesso sto guardando l'altro apparato, quello grande. La bestia. Già fa la sua figura, dai. Così, dai, vorrebbe un po', non so, riverniciato magari. Molti nomi non si leggono più perché consumate dalle dita come tu stai a smanettare. Vabbè, quello magari con i trasferilli, se esistono ancora, io me li ricordo un sacco di anni fa i trasferilli, non so se fanno più, boh. Credo di sì, perché anche da noi certe macchine, sono quelle motrici, quelle che stavamo parlando prima, le vetturine, quando le mettiamo anche all'interno il quadro comandi, e mi ricordo che le sigle le mettevano con i tastierelli. Magari si beccano ancora. In cartoleria, mi ricordo in cartoleria vendevano i fogli con tutte le lettere di tutte le dimensioni. K, già così. Ma cosa si può fare? Eia, aspetta che voglio se riesco a fare un trasferimento di una questione. Adesso ti mando il link di un tipo che ci ha costruito un'antenna come la tua. Forse su YouTube l'avrai già visto. E mo sono arrivato. Cappa, ciao Giulio, ben arrivato. Riprendi, dai. Ok, ciao Fra. Ciao Gianni, ciao Daniele. Va bene, no, stavo ascoltando, stavo leggendo un po', per cui. Va bene, dai, dedicatevi tutti quanti le antenne, così va bene, così va bene. Per cui basta seguire quel progettino, problemi non ce ne sono, funziona. Ciao Franco, ciao Gianni e ciao Daniele, avanti Gianni. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato, ben entrato. Ascolta, visto che gli altri più o meno mi hanno detto il loro parere, sto usando il microfono ZG M95, un palmare preamplificato con il beep e il volume di amplificazione. Dimmi come, secondo il tuo parere, dimmi come la radio. Buona, radio 5. Ha amplificato, hai detto, allora si può anche aumentare volendo. A quanto la stai usando l'amplificazione? Giulio, il cursore l'ho messo al massimo, quindi il cursore è a tavoletta, più di questo non dà. No, già va bene, a voglia, sta più che bene, no problemi, non ce ne sono. No, era solo una curiosità, per sapere a quanto lo stavi usando, però va benissimo. Radio 5 è chiaro, pulita, bella, va bene così. Avanti Daniele. Che me ne sono rientrato. Buonasera Giulio, ben sentito. Poi prossimamente la mettiamo in cantiere quella antennina, per usare dalle mie parti. Ah, sei andato a comprare la canna da pesca? No, negativo, non ho avuto tempo, giù, la verità si ricca. Sto aspettando che migliorino le giornate. Ah, ho capito, sì. Comunque la trovi nella posizione del negozio, è tu entri nell'ingresso, no, e guardi in fondo, poi stai sempre guardando dritto, in fondo e in fondo, alla fine del negozio, quando tu entri, giri a destra, in quella fila di scaffali che ci sono lì, sono, guarda che chiusa è alta più o meno un metro all'incirca, e poi è nera, tutta nera, ha il tappo sopra e sotto, uno è a vite e uno invece è a cosa, c'è il cartellino, tu togli fuori quello del cartellino e a incasso, siccome è abbastanza forte, come strappano fuori e te lo togliono fuori, e poi lo vedi, l'allunghi fino ai 7 metri, comunque leggi il cartellino che c'è scritto anche la misura, è 7 metri. 15 euro, e 99, una cosa del genere, insomma 16 euro, dai, ciao. Scappa Rogero. E poi giù bisogna togliere il puntalino, il finalino dell'antenna, giù, della canna da pesca, quello non serve, è vero? Quello dipende da te, se tu il filo lo vuoi infilare dentro, chiaramente quello lo devi sostituire con uno dove ci passa il filo, perché lì è troppo sottile e il filo non può passare. Oppure lo fai altro che mettere all'esterno, il filo lo puoi mettere anche all'esterno. Però in quel caso lì, dove ci sono tutti i collegamenti, sia del condensatore che della spessore, dell'impedenza, lì devi proteggere bene, perché se no la pioggia si fa tutti scherzi. Se invece lo infili dentro, allora la punta di quella canna la dovrei sostituire con una canna da pesca un pochino più robusta, ma solo la punta però, poi per tutto il resto già passa bene, tranquillo. E poi non c'è bisogno di utilizzare filo finale molto grosso, lì va bene anche da 1,5, intanto potenze tu non ne devi utilizzare, cosa di una putti, perché per mettere il filo grosso è perché uno magari vuole utilizzare delle potenze tipo lineari eccetera. Comunque in genere io ho messo quello da 2,5, 2,5 va benissimo, per cui posso caricare volendo quanto voglio, ma siccome non devo caricare niente mi va bene così. Poi uno dipende da te, anche a 6 mm lo puoi mettere, ma non è così importante, è importante solo per il fatto che uno magari vuole usare un lineare, allora chiaramente ci vuole un filo più grosso, è ovvio, no? No, perché il filo già ne ho, anche 2,5 o 3 forse ce l'ho, 3,5, adesso mi ricordo. Dunque ne ho cavo. E anche un po' di una mattassa, due mattasse mi sono avanzate. E così la progettiamo. K del Rogero, vai, riprendete. Va bene, riprendo, faccio girare per Franco, va avanti fra. Sì, anch'io ho dato quel consiglio di dire, no, non c'è bisogno di arrivare a cavi grossi. Anch'io ho usato il 2,5. A volte gli carico qualcosa, ma non si è mai fusa, Giulio. Oh, ma nemmeno con 1,5 si fonde, e quanto deve mettere? Almeno che uno lo mette 1,000 watt, ma 1,000 watt noi usiamo, ma figura, al massimo possiamo utilizzare 100 watt, a limite, no? Se compriamo un lineareto piccolino e possiamo usare 100 watt, ma regge benissimo, regge benissimo, non ce ne sono problemi. Quello che è importante è sia a Daniele che anche a Gianni, ricordatevi, il condensatore non va cortocircuitato, controllate bene il collegamento, non va cortocircuitato, e cioè quel pezzettino da 9 cm, equivalente a 9 picofarad, non va cortocircuitato, si attacca il filo della luce, cioè quello unipolare, si attacca alla massa, mentre il polo centrale va attaccato al coassiale, cioè al cavo nero, che poi naturalmente dovrete comprare. Tutto lì, non fate quell'errore di cortocircuitare il condensatore, mentre invece va cortocircuitata l'impedenza, e cioè il cavo da 56 cm, 56,1 l'asta dell'altezza, ma queste misure ricordatevi sempre che si differiscono alla calza, da calza a calza, non considerate quando voi collegate il cavo centrale, non considerate la lunghezza dal cavo centrale, bensì da calza a calza. Un altro particolare, quando si fa il collegamento, sia nell'impedenza che nel condensatore, tra filo e filo, massimo 2,5 cm di stacco, non di più. Mi sono spiegato? Avanti Gianni. Chiaro e limpido, perfetto. Sì, vabbè. Io per il momento mi adeguo ad altro. Adesso chi ha una terra in cantiere, Daniele, io adesso proverò altre situazioni, quindi comunque grazie uguale, lo teniamo presente giù. Avanti fra. Sì, Giulio, dove l'hai vista quella canna? La Decathlon? Sì, alla Decathlon, 15 euro e 90, 99, non mi ricordo se è 90 o 99, comunque 16 euro, siamo lì. Dunque, la parte più grossa è di 3,5 cm, 3,4 cm di diametro, e poi ai 20 ci arriva fino a 7 mm, dai. Ti bastano 7 metri per sviluppare l'antenna, perché la mia mi sa che fosse da 8 metri a canna. Da 8 metri tanto meglio, evidentemente la parte finale magari allora non hai bisogno nemmeno di sostituirla, perché infilerebbero ugualmente il filo dentro, al limite, no? Se uno lo vuole infilare all'interno il cavo. Però se è da 7 metri va bene lo stesso, basta ugualmente. Perché basta? Perché alla base si dovrebbe mettere un bastone da infilare dentro la canna. Praticamente vendono del legno già tornito, rotondo, che si può infilare dentro la canna. E la bobina, visto e considerato che servono 6,90 m per l'esattezza, o meglio 6,89 per l'età, comunque 6,90 ce ne vogliono di lunghezza totale, dalla bobina in su, mi sembra che sia, se ricordo bene, adesso non mi ricordo se è compresa la bobina o meno, comunque considerate quello, dalla bobina in su 6,90 m, dunque 7 metri sono sufficienti. Perché sono sufficienti? Perché la bobina si può fissare nel palo di legno, si può fissare che a sua volta dopo ci deve essere un pezzo di palo in alluminio per poterlo fissare al palo, e cioè al tubo che noi utilizziamo per piazzarlo, no? Sempre tenendo presente che questo alluminio deve essere sotto il PL, non deve assolutamente occupare nemmeno un centimetro della bobina, cioè sotto il PL deve essere messo, perché se no la cosa non combina bene. Mi sono spiegato? Sì, nessuna parte metallica al di sopra. Sotto sì, ma sopra no. Anch'io gli ho inserito un palo in legno, un vecchio ombrellone che ho trovato in campagna, l'ho un po' raspato, l'ho fatto un po' conico e l'ho inserito all'interno, anche per rinforzare la parte bassa dell'antenna. Appunto, è quello che sto dicendo, si deve prendere un pezzo di legno rotondo e si infila dentro. La canna da pesca viene sostenuta da questo filo, da questo bastone di legno che è da 3 cm e qualche millimetro da infilare nella parte bassa dell'antenna. E uno quando infila un 30-40 cm va più che bene, devo dire, lasciando naturalmente in tutto 50 cm di legno, dai, perché nella parte bassa una ventina di centimetri viene occupata dalla bobina, viene occupata. Però ancora sotto, poi, sempre inserito in quel legno, ci andrà il tubo, sempre da 3,5, il tubo da 3,5, dunque il legno entra dentro, 3,5 intendo esterno, per poter piazzare poi, perché potresti mettere anche il tubo lungo e fissarla direttamente col tubo al palo, ma prima o poi si spezzerebbe il legno, no? E dunque non sarebbe prudente fare una cosa del genere. Ok? Sì, io ho fatto così, più o meno. Fissavo invece io di attaccare, diciamo, palo a palo, ho creato una specie di bicchiere alto 30 cm di diametro superiore al manico, diciamo, dell'antenna, e l'ho inserita all'interno di questo bicchiere e poi l'ho tipo con una farfallina col dado l'ho fissata, dai, con un pezzettino di lamiera per non segnare l'antenna. Sì, ma così va più che bene. C'è un'altra alternativa, si può fare così. Intanto dimmi che cosa hai usato per fare la bobina, perché la bobina andava di un certo diametro, il tubo. Cosa hai usato? Che tubo hai usato? E dei tubi di acqua. L'ho portato al diametro più o meno, qualche millimetro di differenza, poi no, ho visto che non cambia più di tanto, però ho usato un tubo di acqua, quindi di scarico. Sì, il PVC, quello rosso è usato probabilmente, o arancione, come lo vuoi chiamare, dai. Sì, ho capito. Beh, perché deve essere, quello è da 63 mm quel tubo lì, quel tubo tipo fluviale, dai. E quello lì è da 63 mm. E si potrebbe anche utilizzare così da 63 mm, però se uno vuole prende un coso di carta gommata, di quella adesiva, no? E gliela poggi attorno, sì, ma portato a 66 mm, questo è per essere proprio pignoli al 100%, però diciamo che anche con 63 mm va bene ugualmente, no? Non è un problema, al limite si può fare un mezzo giro di bobina in più, anziché 16 giri, magari se ne possono fare 17, tanto poi uno la prova e la data, anche per quanto riguarda la lunghezza del filo unipolare, eccetera, quello dovrebbe essere 3,45 m, se ricordo bene, totale, quel filo lì deve essere, mentre l'altro, anche l'altro è così, 3,45 m dalla bobina, se ricordo bene, sì, infatti, perché poi diventa 6,90 m, sì, 3,45 m, 6,90 m, poi bisogna rispettare le altezze, no? Bisogna rispettare dove va attaccato l'impedenza, e quello è importante. L'impedenza può andare bene anche volendo, ripeto volendo, può andare bene anche RG58, questo sia ben chiaro, perché l'antenna funziona bene lo stesso, solo che l'impedenza si mette più grossa, come ad esempio un RG8, un RG213, un H1000 è uguale, interessante che abbiano sempre la stessa velocità di trasmissione, e cioè 0,66 come l'RG58, quello è importante, e si mette più grossa perché per avere più potenza, dai, per poter mettere più potenza, più che altro, però se uno vuole, se non ne ha di cavo grosso, può utilizzare sempre anche il 58, questo è scontato. Sì, basta del genere, il 58 è uno dei migliori che ci sia in commercio, come ripeto lì, specialmente se la vuoi inserire all'interno dell'antenna, forse per questione di spazio conviene il 58. Io l'ho fatta esterna, quindi ho messo il 213, ho fatto come te, ho fatto qualche mezzo giro in più sulla bobina, e poi il filo unico, la parte terminale dell'antenna l'ho fatto un po' più lungo, poi intanto fai la piega a ferro di cavallo, e quello che conta è poi è la fine della piega, se deve allungare allunghi, se deve accorciare accorci, finché non trovi il ROS più basso, dai. Esatto. Poi c'è anche un altro particolare, se è necessario, se è necessario, ma ripeto, non credo che sia nemmeno necessario. Nel cavo di discesa, una volta che è avvitato il PL, fare un 4 o 5 giri su un diametro di 10 cm. Fissarlo, lasciarlo così, e quello in aria, lasciarlo in aria, e poi continuare la discesa, questo solo se ce ne fosse necessità, e cioè mi spiego meglio, ad esempio a riguardo di stazionaria, a riguardo di interferenze, queste cose qua, ecco, però diciamo che si può fare anche senza quella, si chiama ciocche, anche la bobina è uguale, per cui va bene così, ok? Sarebbe il simmetrizzatore, così? Esatto, simmetrizzatore, esatto. Capo, sì. No, qua non c'è bisogno, perché proprio è un'antenna che se rispetti le misure, guarda, non dà nessun problema, è già tarata di se stessa, vai. Esatto, già tarata. Poi se eventualmente qualcuno può avere, ad esempio io non so se tu hai qualche linea di stazionaria, visto e considerato che la stai facendo salire in facciata così, attaccata al muro praticamente o quasi, e quello potrebbe essere la causa delle stazionarie un po' più esagerate, però di solito quell'antenna lì dovrebbe avere 1 e 1 di stazionarie, almeno nei primi 40 canali, 1 e 1, 1 e 2 massimo, non di più, poi andando su ancora, messo lì i canali alti, giustamente potrebbe anche salire ancora, certo, però ripeto, quello è dovuto, perché essendo un dipolo, il dipolo non è come l'antenna che ha la massa con i radiali eccetera, ha necessità di stare staccata dal suolo e dagli ostacoli è un bel po', ecco quella. Dunque, se tu ad esempio la fontana la metti così come adesso, mi supponiamo che tu hai un po' di stazionale, se la metti sul tetto probabilmente stazionale non ne hai più, proprio perché hai ovviato al fatto che l'hai staccata dagli ostacoli, dall'ostacolo del muro. Ma chiediamo scusa agli amici, no guarda, questa come l'ho montata, tu conta che è un palmo dal muro, è una bomba, questa mia non ha nulla, se io stacco l'accordatore, lo metto in posizione off, si muove appena appena l'ago, ci cioè arriva 1-1, cioè lo accordo per avere il massimo, diciamo, della perfezione, se no non ci sarebbe bisogno, potrei attaccare tranquillamente l'antenna direttamente all'apparato, andrebbe benissimo, ma anche salendo di canale, scendendo di canale, tipo 80 sotto, 80 sopra, è tranquilla, proprio risuona benissimo. Certo, perché è una antenna che risuona dai 26 fino ai 30, circa, dai 29 qualcosa, per cui abbraccia 400 canali, di conseguenza diciamo che è ben studiata, dai. E del resto l'Assirio l'ha studiata al computer anche, con tanto di nozioni tecniche eccetera, e non è che l'ha fatta così, no. Poi c'è stato il Radio Killer, cioè Francesco Luna Rossa, nonché Radio Killer, che io tra l'altro ho parlato un giorno che c'era propagazione, ci ho parlato anche con lui, e l'ha copiata, evidentemente se ne ha comprato una, l'ha smontata, ha preso le misure e ha cominciato a costruirsela, dopodiché l'hanno messa in aria, cioè su Facebook, queste misure, e la gente ha incominciato ad essere curioso, sai benissimo che la gente quando si incuriosisce poi ci tenta, ci prova, anche perché è giusto che sia così, perché io parto sempre dal principio che fare l'amatore della radio, in questo caso del CB, significa anche applicarsi nozioni tecniche, cioè sia di elettronica che di antenne eccetera. No, no, già, è appassionante la cosa, dai. Facciamo riprendere un po' gli altri, che chiedo scusa sempre. Avanti Gianni. No problem. Quando si tratta di cose del genere non ci sono problemi per me, rimango in ascolto e ciccia, quindi non mettetevi problemi, al limite se ho necessità già busso, ok? Vediamo se è rientrato Daniele. Ehi, ci sono, sennò quando compro tutto scendo da giù e la facciamo assieme. Ecco, lì non c'è gusto, la devi fare da solo, la soddisfazione personale è quella, la devi fare da solo, perché ci riesci tranquillo, poi se non ci riesci allora possiamo anche intervenire, quello non è un problema, però io ti consiglio di provarci da solo e ti dico che ci riesci al 100%, interessante rispettare sempre le misure, che non c'è da sbagliare, apri il computer e hai le misure, poi mi sembra che ti ho scritto anche qualcosa io, se ricordo bene, no? Cappa, c'ho tutto conservato nel telefono, Giuliano. E va bene, vediamo di riuscire a fare anche questa. Andavè. Ok. Tu pensa che quella, adesso, quella, se tu leggi, guarda che c'è qualche articolo, non so se te l'ho mandato anche, qualcosa scritta c'era, prova a allargare l'immagine e la puoi leggere, perché capisco che nel telefonino è molto piccolo, ma se la allarghi già ti legge, anche slittando la pagina. Quella lì è stata praticamente studiata in concomitanza con Luna Rossa, e cioè questo Radio Killer, e questo Alfredo, però ci sono anche tanti altri progettini fatti anche da altre persone che poi sono simili anche come misure, per cui non c'è da sbagliare, tipo ad esempio GM, forse un radioamatore, non lo so, perché ho visto che lui ha le stesse misure di quelle che ti ho mandato io, uguali, identiche, non cambia proprio un bel niente qua, veramente. per cui non c'è differenza. Sì, perché una volta che tu la metti su Facebook online, tutti la vedono e tutti la vogliono fare. Ecco, la soddisfazione è quella di costruirsela da sé, quello è importante, costruirsela da sé. Poi se uno ha necessità di aiuto, per carità di Dio, problemi non ce ne sono, però ripeto, io ci provvedi, non fare come ha fatto Natalino, va tentando, hai sbagliato le misure e poi si è stancato e ha buttato via tutto. Bello gabbo Aulio, vai Franco. Natalino, ci manca un po' della frequenza, peccato. Io sono stato fortunato, non so se l'ho azzeccata alla prima, io praticamente l'ho fatta in terra dentro casa, l'ho stesa sul corridoio, la parte più lunga che c'ho a casa, l'ho saldata, dopodiché l'ho attaccata, l'ho vulcanizzata sopra la canna, allora, tutto lì. Sì, beh certo, tu dove l'hai infilato il filo, dentro della canna oppure l'hai messo all'esterno? No, l'ho messo all'esterno, perché non so neanche se ci sarebbe passato poi all'interno con quel cavo grosso, non lo so, non ci ho provato, comunque l'ho messo all'esterno. Ah, ok, vabbè, ma va bene lo stesso, quello non è un problema, il cavo si può mettere anche all'esterno, ci mancherebbe, no, quello è come uno preferisce fare. Basta che uno isoli bene poi dove ci sono i collegamenti, se no a lungo andare magari si sa benissimo che può filtrare l'acqua e allora incominciano le noie, tutto lì. Vai Gianni. Un minuto per me che vado a cambiare l'acqua di olive. Ok, va bene. Avanti Daniel. Felice QTH piccolino. Non è possibile, vabbè dai, già sono buono il mio livello da confetto, vero fra? Ma non con quell'acqua però, giù. No, io ho parlato di olive. E anche quella già è salata, lì. Vabbè, comunque deve essere che Gianni c'ha molte olive. Evidentemente, ha fatto la raccolta. Vabbè dai, perché tu non l'avevi presa la canna ho avuto la fortuna che me l'ha regalata un collega, questa canna praticamente l'aveva trovata in mare, praticamente l'aveva pescata, e me l'ha regalata, quindi una vecchia canna, è un po' flessibile, non so questa di Decathlon come sia, se sia più rigida, ma non credo, visto che è in vetroresina. No, è oscilla molto anche, però è importante. Io dove ci sono le giunzioni, diciamolo, una volta che tu lo allunghi questa canna, ci ho messo un pezzo di una quarantina di centimetri e di tubo di quello rigido da elettricista, no? Di quello adatto alla sezione dove l'ho messo, e l'ho lasciato bene sotto e sopra, in modo che perché si sa dove c'è la cosa, una volta che tiri su gli stili, diciamo così, perché a canno chiave, no? L'antenna, la canna fresca, e lì non è che ha una grande resistenza, e allora io ci ho messo sotto al rinforzo di quel coso lì un pezzo di quel tubo per impianti da laboratorio, di quello rigido, e va benissimo, non ci sono problemi. Ho visto che con tutto il vento che ha fatto, e poi io sono già un paio d'anni quasi piantata, perché il vento già ne ha fatto, già lo sapete benissimo quanto me, che ne ha fatto sia l'anno scorso che quest'anno, e non è successo niente, così va molto, ma è sempre bella rigida. Capo, no, la mia, figurati, quando l'ha piegata me l'ha mandata sotto il cornicione ed è rimasta incastrata per un breve periodo, figurati quanto è flessibile. Sì, beh certo, è flessibilissima, già lo credo, beh d'altronde è così, d'altronde è una canna fresca, sappiamo, è flessibile. Ma quella che c'è da Decathlon, a proposito, non c'è nemmeno niente da togliere, a me e alle varie, che ci sono di solito nella canna da pesca, non c'è niente, quella è proprio direttamente pronta all'uso. Sì, anche questa era una canna fissa, non canna da metterci mulinello, è una canna fissa. Sì, una canna fissa, allora, sì, certo. È da chiusa è alta all'incirca un metro, sarà più o meno, dai, no, forse di meno, anche di un metro, non lo so, comunque così, ma è abbastanza, abbastanza resistente, è abbastanza resistente, per cui, vedi, poi c'è anche un altro particolare, mettendo all'esterno il filo, mettendo il filo all'esterno, secondo me, questa è una mia idea, anziché metterlo all'interno, in caso di rottura, la canna non dovrebbe cadere giù assolutamente, perché? Perché col filo che c'è lungo tutta l'altezza, che naturalmente è fissata con nastro, questo io ogni 20-30 cm, no? Un giro di nastro e fin su, in modo che rimanga bella tesa, e anche se si presta c'è il filo che è attaccato, dunque lo spessore non cade giù. Vabbè, ma anche se lo metti all'interno rimane praticamente l'anima del carro, no? Sì, è la stessa cosa dovrebbe essere. Sì, perché poi alla fine in alto si può fare in modo che non scenda un nodo, so che so io, o un anello, insomma c'è sempre il modo di bloccarla, dai, in modo che non scenda, anche perché deve essere tirato, deve essere, il capo deve essere tirato, allungato, che sia bello bello tirato, senza bisogno di che faccia cosa, come si dice, che sia troppo lento, che si, no, non va bene, ecco, è meglio che sia tirato, fissato, che sia teso proprio come si deve, in modo che non sia troppo molle. Avanti Gianni, già è lunga questa svuotata di olive. Mi sa che sta mangiando le olive. Vai Daniele. Sta controllando se sono già pronte. Oioia. Sì, va bene, va bene. Mi sta intrigando questa storia, Vai che ce la fai, vai, vedrai. A me mi ha dato soddisfazione, io ho cambiato. Tu figurati che Giulio mi sentiva malapena, così anch'io, Ed è la mia, diciamo, che è a 3 metri da terra, non supera neanche il palato. Figuriamoci se dove si mette là sul tetto questa antenna, Daniele. Qua mai stai arrivando forte, non mi ricordo zona a zona, però sia tu e Giulio mi state arrivando forte. Io sono qui a tipo Sacro Cuore, dai, nella zona del Monte Basso. Però ripeto, l'antenna è a livello di cornicione, non supera il cornicione, la punta dell'antenna, KK. Se ti fidi c'hai lo stesso segnale di Giulio. Giulio è un po' più lontano di me, però Va bene, magari io ce l'ho interrato, però è quella la differenza, è quella, anche se è basso, però è interrato, dunque anche se davanti poi ci sono palazzi eccetera, comunque va bene, e tu ripeto, perché ce l'hai attaccata lì alla staffa del filo da stendere l'hai legata, fra. Sì, capo, un attimo, una bassa. Ok, che ti puoi immaginare, Daniele, legata al filo, alla staffa, è chiaro che è quasi in aderenza, si può dire, al muro, cosa può essere, 40 cm staccata dal muro, dunque diciamo che va bene, però è senz'altro in sofferenza, quell'antenna è in sofferenza, non ci sono dubbi, però va bene, perché va bene, figuriamoci se la mette sul tetto, a campo aperto, Daniele. Ti batte il segnale giù, magari quando non di molto, però qualche punto S lo guadagna, capito? Perché sapete, lo stesso segnale, la tua che è libera contro la sua che diciamo è tappata. Sì, a parte il fatto che io sono più lontano, vabbè, ma forse lui sta usando qualche aiutino anche, non lo so, ma suppongo, io non lo so, ma questo è quello che sto pensando io. Esce quella meraviglia, la radio bella, forte, chiara, limpida come il requalo. Più bella di così non è possibile, ma benissimo veramente. A riprova che appunto a testimonianza che l'antenna è performante. Ripeto, se poi l'avete sul tetto va ottimamente bene, allora è ottimo più. Eccomi. Io sono entrato, Comunque negativo, sono liscio, cioè i vati dell'apparato, dai. Avevo pensato io magari qualche aiutino, era solo un mio pensiero, niente di più. Va bene, va bene. Avanti Gianni, visto che sei rientrato, una bella risciacquata hai dato. No, vabbè, ne ho approfittato per farmi una sigaretta, quindi ho unito l'utile al dilettevole, dai. Ecco. Registrato il break, si chiama fumogeno. Si chiama. Ciao Massimiliano, avanti. Ciao, buonasera a tutti, dai. Non so proprio chi c'è. Ho sentito a te e a Gianni, poi non so chi c'è altro. Franco c'è, e poi non Franco di Sorso, Franco di Sassari, e poi c'è anche Daniele. Avanti ancora. Ok, dai, ciao Franco e ciao Daniele, avanti Daniele. Ciao Massimiliano, buonasera, ben sentito. Vai, riprendi Gianni. Ciao Massimiliano. Sì, qua ancora il cantiere è aperto, quindi ci stiamo scambiando informazioni. In che senso il cantiere è aperto? Dico, il cantiere, visto che stiamo parlando di costruzioni varie, antenne, trick e track e ballacche, in quel senso lì. Ah, ok, là. Va bene. Giulio, un'info, la Juve la fanno vedere in chiaro? No, niente, Sky, su Sky e basta, oppure in streaming, se qualcuno ce l'ha la possibilità. Ah, vabbè, non ho problemi, cioè guardarla in una maniera o nell'altra, no, Sky già ce l'ho, e va bene così. Ciao Franco, scusa se non ti ho salutato ancora, avanti. No, tranquilla, quale scusa, dai, mi hai sentito anche a te, anzi mi hai risentito. Ok, va bene. Giulio, come mi ascoltano questa radio? È come ti ascolto, Massimiliano, mamma mia. Io non te lo dico nemmeno, come sempre, bene, benissimo. Sei un plus ultra. Vabbè, ho fatto un piccolo abbinamento, dai. Questa è quella che l'altro giorno sentivi il vento, le ventoline, e comunque avevi ragione perché ho aperto l'alimentatore e non voleva visto. C'era la ventola via il garraggio, sai, anche quella lametta, no? In più io facendo dei lavori ho lasciato tutto così e quindi era tutto pieno di polvere dentro, l'ho tutto bello pulito e poi prima gli ho messo un po' di spray per contatti e poi un po' di CRC sulla ventola. Sicuramente la mia modulazione la copre, però se lascio la portante fissa credo che si senta un pochino, vedi un po'? È più che normalissima così, ma è talmente bassa che proprio appena si sente, figurati. Va benissimo così, ma te l'avevo detto, io l'avevo appena fatto il giorno prima, ti puoi immaginare, te l'avevo detto, ma lo so, io sistematicamente di tanto in tanto svitto 10 vitine, perché io ho un switching da 30 ampere, lo svitto 10 vitine, apro e pulisco, prendo un pennellino, pulisco all'interno, do una soffiatina sulla ventola, di sotto la ventola praticamente, così con un soffio con la bocca, e poi ci metto un po' di quel contatto, di quel disossidante per contatti elettrici, una giratina, la rimonto ed è perfetta, ed è silenziosissima. Sì, ma si sentiva che addirittura stava soffrendo, quella ventola stava soffrendo, perché non era, si sentiva che non era scorrevole come deve essere. Adesso è limpida, proprio va benissimo, proprio quasi niente si sente, dai. A parte il fatto che quando parli la sovrazzi 10.000 volte, non una volta. Va bene, ne prendi e fai girare tu, Massimiliano, visto che sei entrato, perché noi abbiamo già chiacchierato un pochino. Adesso tocca a te. Vabbè, dai, io riprendo perché sono un po' mal di schiena, che mi stavo sparando un po' di terra qua a casa, che da lavori mi ha avanzato un po' di materiale, quindi avevo un angolino di terra che non me ne faccio niente, cioè non ci pianto niente, sono davanti all'apra, diciamo, alla casa, ma proprio un triangolo. Sembrava che non ce n'era di terra, ne ha bucato un camioncino, a più mai. Cioè sono sceso a roba di 60 cm per 2 metri quadri di roba, fai 3 metri quadri, to, esagerando. E ci devo mettere un po' di borrotare e poi me lo faccio a cemento. Mi allargo un altro pezzo, un pochino il piazzale, no? Mi ho vinto. Gianni, com'è la modulazione? macchina di Gianni giù, ha migliorato un pochino con quel microfono. Sì, beh certo, ha migliorato moltissimo, aveva voglia. Intanto non c'è proprio nessun cracchiamento, a differenza di prima che era con microfono normale, c'era la lavorazione la sentivo bene lo stesso, ma adesso intanto è più forte e poi non esiste più quel cracchiare che aveva, che era una cosa lievissima, sia ben chiaro. Però c'era, io la sentivo. Comunque adesso è molto più chiara e anche più forte. Avanti Gianni, fagliela sentire a Massimiliano. Sì, già, l'abbiamo già sperimentata, sì. Va bene così, dai. Ottimo e abbondante, come si diceva. Di lusso, va bene, dai, meglio. Siamo contenti che abbiamo fatto uno step in più, dai, grazie a Massimiliano. E niente, dai, visto che insomma non ho dovuto smontare niente, il connettore era suo standard, quindi l'ho infilato, l'ho acceso e è andato proprio alla prima. Ma guarda, io sono sicuro, non al 100%, però sono sicuro che se tu apri quel microfono dentro c'ha un trimmerino per aumentare ancora la modulazione, secondo me. Perché quel cursore che tu aumenti, quello Mickey Green, è sicuramente dentro, vorrà aumentato il trimmerino, perché l'M300 per esempio ce l'ha, capito, per aumentare l'eco, però, per aumentare l'eco e anche la modulazione, mi sa. Adesso non mi ricordo l'M300, uno sicuro ce l'ha, però credo che ce l'abbia anche quello lì, per aumentare un pochino la modulazione. Bisognerebbe aprirlo e vederlo. Ok, vai Franco. Sì, capo, grazie. No, volevo chiedere a Giulio, tu che mai chiusi l'originale da palmo oppure da tavolo? Tipo l'MC60? Io uso l'MC60 e sto usando quello. Da palmo avevo provato ad adattare il BB-4 e si adatta anche molto bene. Avevo fatto uno stressone proprio per non toccare il collegamento del microfono che era già fatto per il baracchino, e l'avevo anche adattato al 440. No, ma adesso sto sempre usando questo perché ho imparato a usarlo di più questo, perché lasciandolo fermo mi era successo che l'ho dovuto portare dal dottore. Meno male il mio dottore era qui vicino a Sassari e mi ha fatto anche un bel lavoro. Però succede di nuovo lo stesso discorso, e aveva ragione Claudio quando mi diceva usalo sempre, e aveva ragione, perché sennò quello si offende e poi c'è bisogno del dottore. Invece così facendo spero che perlomeno che non succeda, o perlomeno che mi lasci in pace per almeno un bel po' di tempo. Sì, l'MC60 Franco. No, beh, una bella modulazione chiara, senza fronzoli. Stasera abbiamo provato anche nella mia barra mobile due varianti. Ho provato l'antenna attaccata alla staffa dietro la ruota di scorta e la base magnetica invece sopra la capota, e a quanto pare funziona meglio la base magnetica, Giulio. Sì, a quel punto ti spiego anche il perché con la base magnetica, bene o male, è un direzionale il segnale, mentre invece mettendo la ruota di scorta dietro è direttiva verso davanti. Se invece la metti davanti, nel parafango davanti, è direttiva verso dietro della macchina, in quella direzione diventa direttiva quando è così, perché è come una boomerang con l'antennino, in poche parole, tutto lì che fa quell'effetto lì. Mentre invece messa sul tetto, se poi buchi e metti l'antenna direttamente sulla macchina, ancora meglio della base magnetica. Questo è scontatissimo, ma ti ho sentito poc'anzi, io stavo appunto leggendo e ero all'ascolto già da prima quando stavo parlando con Gianni, e io stavo leggendo e non ho voluto continuare la lettura che stavo facendo proprio per non interrompere, capito? Ecco, è quello il problema, o Franco, vai. Però non hai visto i segnali nelle due varianti, no? No, non stavo guardando i segnali, però diciamo che già del radio è il più basso, questo te lo posso dire, questo senz'altro. Ok, dai, riprendi Daniele. Daniele, ci sei? avanti Gianni allora. Adesso li liberi, sta mangiando lui. Vabbè. Una volta per uno non fa male a nessuno. Bene meta, bene meta, bene meta. Stavo per dire una cosa, ma me ne sono dimenticato, oggi sono proprio a svarione. Non ci sono con la testa, sono un po' confusa. Come ti utilizzi? Mi sembra sia la seconda volta, anche qualche minuto fa, cioè qualche mezz'ora fa, mi devi dire qualcosa e te ne sei dimenticato. Vabbè, pazienza. Deve essere quel tedesco che ci fa impazzire, deve essere, come si chiama? Alzheimer. E chi è? Vabbè, molto ero le olive. No, stavo facendo la Riosol. Ah, tu doppio, sigaretta allora. Io faccio la Riosol con la sigaretta. Qualcuno me l'ha fumata anch'io tempo addietro, ma ormai ho appeso la sigaretta e l'accendino al chiodo. Ma si vediamo, guarda che io ho ordinato la schedina, è partita oggi. Ah, l'ho ordinato? Sì, da questo Franco Zorro, come l'hanno si chiama lui. Il meno che costava con le spese di spedizione. Tipo, vabbè, 5,60 euro di spese di spedizione. Ma gli ha dato direttamente l'indirizzo di lui, di quello là, quindi gli arriva a lui. E allora? Cacchio, non sono scemo a farlo mandare qua e poi gliela porto di là. Cacchio, già mi costa. Ok. Quindi l'ho ordinata oggi? No, l'ho ordinata ieri, me l'ha fatta partire dopo pranzo, è passato il corriere che mi è arrivata le mail e l'ha ritirata. Capito? Quindi penso che in settimana mi ha detto che me lo dà, come arriva il pezzo me lo sta dando. Aspetta, dove l'ho ordinata? In che zona si trova? Aspetta, che è una frazione, non so di dove, si chiama, aspetta che apro le mail e te lo dico subito, aspetta, riprendete voi. No, perché ti spiego, allora se tu ordini dal nord Italia, tipo Milano, tutte quelle zone di nord Italia, tu per esempio ordini oggi e ti arriva dopo 3 giorni, ok, lavorativi, quindi oggi, domani, dopodomani ce l'hai qua. Se invece ordini verso Foggia, Taranto, Brindisi, che è un po' in sud Italia, ordini lunedì, che è prima di mezzogiorno. Se parte prima di mezzogiorno ti arriva il giovedì, 4 giorni lavorativi. Boh, questo è Fano. Fano non so neanche dove sia, no, mi sono incimentato a cercarlo. Come si chiama? Sano? S-A-A-N-O? No, Fano. La città Fano. Adesso lo guardo, dov'è? Avanti, giù. Ok. Sì, in effetti i tempi sono quelli, I tempi sono quelli, Daniele, più o meno. Ma arriva velocemente, non è un problema. Sì. Volevo chiedere, Franco, tu non hai possibilità di metterla sul tetto, no? L'antenna lì. Per adesso no, negativo. Anche perché ci vorrebbe un palo come si deve, bisognerebbe fare un foro nel tetto e murarla poi nel sottotetto e sistemare poi le tegole su. Proprio sulla monta principale, sulla parte più alta. L'antenna del televisore, ma è un tubo. Non reggerebbe quell'antenna lì, dai. Ma se il tuo personale, il tubo della televisione lo puoi sostituire, ci metti l'antenna della televisione e anche l'antenna della radiolina, va bene lo stesso. Tanto tranquillo, non te ne fatti guai. No, il fatto che il tubo è proprio etile, sì, il tubo ognuno ha la sua antenna, qua ancora abbiamo le antenne individuali. È che non è robusto da reggere quella, quindi bisogna metterlo nuovo, però il tubo esce dalla come ti posso spiegare, dalla tegola, quelle tegole tipo sarde, no? Poi è murata, è stata forata e poi tutta incementata e tutto quanto, quindi non è semplice, dovevi spaccare quella tegola, mettere un tubo più robusto, magari anche più alto, e poi incatramare tutto. Sembra semplice a dirlo, ma quando sei in condominio è così. Ah, ok, ho capito, fra. È un lavoraccio, purtroppo. Vabbè, dai. Comunque già ci sentiamo lo stesso, però poi mi faccio il risotto. Per cui, mi servono Santiago 9 qua, modulati 9-5, per cui va bene. Va bene, fra. Suppongo anche che tu riesca a fare anche qualche collegamento quando ci sarà propagazione, suppongo di sì. Speriamo, però io te lo auguro, guarda, così ci sarà anche da divertirsi in estate, dai. Avanti, Gianni. Ehi, ragazzi, io mi devo allontanare 10 minuti, devo fare spiegare una cosa, poi dai, ci sentiamo dopo, rientro dopo, ok? A dopo. Va bene, d'accordo, a dopo. Ti prendi Massimiliano. Ok, là, ciao Gianni. Sì, Dani, ho controllato là, la zona di San Marino. Fano si trova, è una provincia di San Marino. Comunque, vabbè. Ok, 3 giorni di lavorazione sarà qua. Va bene, e cosa che ti volevo dire, un'altra cosa, ma mi sono dimenticato. Boh. Sì, è qua nelle Marche, dovrebbe essere, se non sbaglio. Così mi dice Wikipedia. Va bene, va bene. Però volevo dire una cosa a Giulio, mi sono dimenticato. Aspetta, mi sta riprendendo in mente. Boh. Siamo qua, Massimiliano, senza fretta, già te lo ricordi e poi mi chiedi quello che vuoi sapere, non ci sono problemi. Va benissimo così. Avanti, fra. Beh, tu eri più forte qui, se questo è giusto, non lo so, smettere. Comunque sei sui 9.20 qua, Giulio. Ma è spiegato, il discorso spiegato è quello, fra. Il mio, anche se è in interrato, il palo è basso, però è sempre su un tetto, ho capito? In pratica c'è un palo a 1,20 m nel terrazzo, anche se dal tetto, perché io sono nella parte bassa della casa, no? A differenza di prima che ce l'avevo nella parte alta, la mantova tubo. L'ho messa lì perché c'è il muro del terrazzo, no? Che è praticamente un davaltare. Tu immaginati un davaltare di una finestra, quant'è? 90 cm, così, all'incirca, 85-90 cm. Ed è fissato, questo è davaltare. Con 1,20 m di palo, niente di più. Però siccome c'è il tetto che è la pendenza, no? Il mio tetto è a due spioventi, uno da una parte e uno dall'altra, e dunque dal tetto dista se no 30 cm, non di più dal tetto, si può immaginare, perché è proprio attaccata alla parte dove scendono le tegole, perché non l'ho messo al centro del terrazzo, l'ho messo tutto da un lato, e dunque di conseguenza dall'altezza del tetto alla parte bassa del tetto 30 cm, sicché ho tutta la parte alta che mi impedisce da quella parte lì, poi di fronte c'è la casa, il palazzo di fronte, più dall'altra parte di fianco c'è il muro mio stesso, che è il muro del terrazzo, insomma sono coperto, però è sempre all'esterno, in alto, dunque i 7 metri sono fuori da ogni muro, da ogni ostacolo, anche se essendo un dipolo deve essere ancora più alto da ogni ostacolo, soprattutto dal suolo, e cioè in questo caso dal tetto. Sì, più o meno sei come me, forse tu ormai ce l'hai un po' più distante dal muro di facciata, non so nel tuo specifico, invece la mia è proprio è a un palmo poco più dal palazzo, però come altezza siamo lì, anche la mia punta arriva al cornicione, dai. Sì, e poi ho fatto il furbo, l'ho toccata, perché nella bobina che è nera, perché io ho usato l'H155, ho usato per fare l'antenna, non ho usato l'RG58, ho usato l'H155, che ha la stessa sezione dell'RG58, dunque gira bene, eccetera, eccetera, lo stesso spessore, così, eccetera. L'ho camuffata perché ci ho preso un rotolo di nastro isolante e l'ho nastrato con un altro rosso, così sembra la grimace originale, sembra furbo io, no? Sì, perché l'originale è rossa, hai ragione. No, la mia è, ci vede tutto, ci vede la parte arancione del tubo del PVC, ci vede tutto, dai. L'unica cosa è che non ho messo il PL, non ho messo l'attacco a PL, ho messo due bulloncini d'acciaio e paio con gli occhiali, capito? L'ho attaccata così. Un'altra differenza è che la carta da pesca mia è grigia, mi sembra, o bianca, boh, insomma un grigio bianco, dai. Ecco, perché la carta da pesca di quel periodo l'avevo presa di quel colore. Oggi le ho viste, sono nere, le ho viste, la stessa canna però è nera, sempre nello stesso negozio, ma io ripeto, ce l'ho già quasi 2 anni piazzata, per cui evidentemente questa volta hanno cambiato colore. Tutto lì. Vai Massimiliano. Sì, riprendo perché mi devo allontanare un secondino, devo scendere un attimino giù a bere e poi risalgo, dai. Ok, riprendete. Ok Massimiliano, d'accordo, anch'io ho bevuto acqua Santana. Vabbè, dai, ti volevo dire un'altra cosa, quella terra che mi hai tolto da quel pavimento, se tu puoi la rimetti, te ne avanza anche un bel po', perché non ci sta più. Già lo sai, non c'è bisogno che te lo dica io, queste cose già lo sai. Soprattutto perché sei quasi da mestiere, dai. Vabbè, avanti, Daniel. Già parrogero, dai, io ne approfitto che vi saluto, che qua è quasi pronto, dai. Ci sentiamo alle prossimine. Buon proseguimento e buon tutto. Ok Daniele, dai, ciao, ti saluto anch'io allora, ciao, salutoni, ci sentiamo eventualmente domani, alle 8:15, un po' in anticipo, 6 oggi, ma comunque va bene lo stesso, certo, ci mancherebbe. A domani, grazie per la chiacchieratina, vai fra. Ciao Daniele, sì, alla prossima, a risentirci, buona carica di batterie. Gianni, ci sei? Gianni, si è sentato per 10 minuti, intanto io sto cronometrando, se lui tarda poi sarà multato. Bene, ma così fa. Sì, sì, una bella multa. Allora un po'. Aspetta un po', sto mettendo un po' di ordine qua sopra. La gente dove mi segno i numeri, sì, anch'io come voi, no? Che sia un granché, quindi mi segno i nomi di quelli che sono in frequenza, dai Giulio, non so se lo fai anche tu. No, diciamo che prima me li segnavo perché eravamo in tanti e quando cominciavi tu a formare una ruota che ce n'avevamo 20 persone, allora qualcuno ti poteva sfuggire. Adesso non le sto più segnando, no? Siamo 4 gatti, no? non è più necessario. Prima sì, ma sto parlando di anni fa, parecchi anni fa, quando eravamo enormemente numerosi. Oggi invece siamo 4 gatti, lui. Mi ricordo le ruote di prima, dovevo aspettare un quarto d'ora prima di rientrare. Sì, prima era così, era una... Anzi, certe volte riuscivo a fare 2 corse o in un canale o nell'altro, perché ormai dopo che c'era un po' sul canale, ho intuito com'era l'abitudine, il giro del rilancio del microfono, allora da quel canale passavo un altro e facevo queste ore nell'altro canale, e così poi ritornavo di nuovo nel canale di prima, e così via, e io, quante cose che abbiamo fatto. Prima c'era traffico, mi ricordo. Certi apparati che prendevano colpi, mi ricordo. Non sentivi nulla, Tipo l'AM International, mi ricordo, c'era un... l'ho avuto un periodo, poi l'ho dato subito, perché prendeva colpi da tutte le parti. Sì, ma allora eravamo... vabbè, eravamo più giovani e tutto, Prova a togliere 47 anni di milizia che ho io in frequenza, vedere, poi sai, se eravamo giovani o meno, per dire, no? Stavo dicendo, col baracchino allora avevamo solo i 23 canali, però c'era qualcuno, quando entrava qualcuno che faceva lo stupido, allora per sfuggire col baracchino aperto e con i quarti a portata di mano, per avere più canali, soprattutto canale 45, non mi ricordo, allora GBC oppure da Fusaro, 5.000 mi sembra che era un quarto, una coppia di quarti, adesso non ricordo bene, per avere i canali più alti, cioè per sfuggire da quei 23 canali, dai. Sì, a coppia, mi sa che anche io mi ricordo che fossero a coppia, nelle frequenze diverse, dai, trasmissione, recensione, così era. Sì, sì, sì, c'erano quelli sintetizzati e c'erano quelli che lavoravano in coppia, è vero, che dovevi avere sia quello della recensione che quello della trasmissione. Oppure c'era solamente il quarto che mettendolo magari in un bar, dipendeva dal tipo del baracchino, che era sintetizzato, e allora anziché avere la coppia per ogni canale, c'erano magari, non so, 10 quarti ad esempio, che significava 5 più 5 oppure 5 più 4, dipendeva, non lo so, adesso non mi ricordo bene, forse anche di più di 5, oppure 10 più 4, magari avevi salivi vicino ai 45 canali, capito? E io via quante prove che abbiamo fatto. Quando la privi vedevi tutta la scritta dei quarti, due squadre di calcio. Allora, poi i quarti tutti ben tenuti in modo da non cancellare la frequenza, se non sbagliavi, perché nel quarto c'è scritta la frequenza, no? Se non sbagliavi, magari ti sbagliavi il canale quando cambiavi. Poi più di una volta abbiamo fatto anche la quartiera aggiuntiva, con una quartiera aggiuntiva, poi con un interruttorino, e commutavi dai soliti 23, commutavi l'altra quartiera dove c'erano altri canali. No, lì non sono mai arrivato, però mi ricordo che qua ti li avevo comprati per un portatile, questo portatile aveva tre canali, infatti io iniziai all'epoca proprio con quel portatile lì della Inuit, che normalmente veniva venduto con una coppia solo di quarti, quindi solo un canale, e poi avevo scelto, mi sembra, avevo aggiunto l'11 e il 23, che erano quelli più frequentati, se non vuoi sbagliare, e così avevo tre canali in tutto, vai. C'ero sempre io uno da tre canali, c'ero sempre, io avevo il 5, il 7 e il 23, mi ricordo che ancora sono così, ma ce l'ho conservato dentro uno scatolone dove ci sono tutti gli altri, che poi non li cerco mai, per carità, anche perché è troppo lavoro a toglierli poi a rimettere a posto, lasciamo per... Prima avevo il tavolino pieno di baracchini, adesso invece ne ho solamente due qua davanti, niente di più. Per cui comunque una modifica così l'ho fatta anche a un baracchino Cobra che ho da base, quelli tipo tastiera del pianoforte, no? Quello lì è nato a 23 canali, ci ho messo una quartiera aggiuntiva, un giorno ho trovato un giornale, mi ricordo che era forse era circo elettronica o qualcosa del genere, no? E c'era questa modifica, ci ho messo una quartiera e alcuni quarti che poi tra l'altro avevo già, con un interruttore per commutare, e sono riuscito ad arrivare sino a 37, canale 37, sono riuscito ad arrivare, dai 23 sono diventati 37 canali, ed è un Cobra 139 mi sembra, è un barrasone grande, è più grande del 440, ti puoi immaginare, soprattutto in altezza, è più alto anche in larghezza, è un po' più grande, qualche centimetro più grande del 440, per dire, no? E l'avevo fatto questa modifica, ma non lo uso mai, ormai. Ho ripreso, capo, ben entrato. No, io avevo modificato anche la portatile, l'attacco, gli avevo messo l'attacco per il PL, un attacco femmine, dai. Perché mi si era fuso l'apparato, il patch 8030 che avevo, e quindi utilizzavo quel portatile che con l'antenna normale telescopica non sarei mai arrivato a Sassari, invece con l'antenna esterna, una gran plane avevo all'epoca, dai, riuscivamo a sentirmi un po' dappertutto. Avanti Massimiliano. Sì, positivo, non è che vi ho ascoltato molto perché ero giù, quindi non so di cosa stavate parlando. Sempre di vecchi, di come abbiamo iniziato, le modifiche che facevamo per aumentare i canali, quindi aggiungevamo quarti, viaggiavamo con i quarti in tasca, all'occasione cambiavamo i quarti. Ah, anche io ho avuto un paio di quelli a quarte così. Vabbè, prima erano tutti così comunque, non ce n'erano diversi, erano tutti a quarte. Infatti, ed erano forse anche un po' più selettivi, no? Sembra così, Giulio. Quelli quartati prendevano meno colpi di quelli a PLL. Sicuramente sì, perché la frequenza è quella, più selettivo senz'altro. Infatti se non, a meno che non c'era qualcuno proprio vicinissimo, sentire gli splatter, oppure quando uno metteva qualche watt in più, allora c'era sicuramente anche battimento, senz'altro, non ci sono dubbi. Però parlando in maniera normale, è per così dire corretta, tra virgolette, nel senso che uno ha una certa distanza da dove abita, non usa potenza, eccetera, era più selettivo, a differenza di quelli oggi con il millepiedi, con gli integrati, è tutto lì dentro, per cui è chiaro che gli splatter arrivano. Poi naturalmente ci sono i baracchini seri che sono ben filtrati e quelli non ne prendono colpi. No, questo che sto usando adesso è abbastanza sordo, cioè non difficilmente, a volte sento un canale, ma vuol dire che sta proprio pompando, deve essere proprio anche vicino, se no non prende colpi come apparato, questo è un Galaxy, un Super Galaxy. Ok, certo, e io se uno per dire usa un po' di watt in più me ne accorgo, ad esempio, perché con la 440 non le senti proprio di splattere, difficilmente, bisogna che sia uno vicino oppure che abbia una certa potenza. E se voglio individuare se qualcuno sta usando qualche watt in più, mi sposto di un canale e posso sentire, ma non un disturbo, ma un vibrato, dai, un leggerissimo vibrato proprio, allora posso capire, questo qui sta usando un watt in più, per dire, qualche watt in più, tutto lì. Ma grazie Melià, ne abbiamo fatto di belle prove, allora dai. Scusa, mi stavo chiamando, ero in basso. No, stavamo parlando di baracchini che erano quartati, che erano meno sensibili agli splatter, e dunque di quello stavamo parlando. Sì, quelle a quarti sono più migliori secondo me, ma ancora oggi, non è che sono migliori ancora oggi per me, solo che quarti adesso non se ne trovano più. È un casino, ormai le radio hanno tutti oltre 40 canali, quindi se ti devi spostare oltre 40 canali non ci puoi più andare, ecco, tu lì. Infatti oggi sono con integrato e chiaramente ci sono più canali, questo sì. Oggi addirittura baracchini con 400 canali, cazzo. Però allora in quel periodo esisteva il VFO, Franco, e io ce l'ho avuto questo VFO e l'avevo attaccato ad un Pony 23 canali base, quello grande con l'orologio eccetera eccetera di allora, micidiale per il TVI, era micidiale quello per il TVI, per carità, cazzo. L'avevo attaccato al quarto oscillatore, al transistor oscillatore, gli avevo attaccato il VFO e funzionava a sintonia continua, come la radio, a sintonia continua, trovavo il canale così e dovevo girare lentamente, ma veramente lentamente, se no mi sfuggivano anche, e prendevo tutte le radio del mondo, radio Cina, radio della Russia, cose che lo prendevo tutto indistintamente. Ma era un disastro col TVI, per carità. Ma in che senso? Lo creava TVI, ce lo facevi quando lo usavi in trasmissione? Sì, perché era il baracchino che creava TVI, capito? Poi l'avevo lato e non ce l'avevo più, e però mi accusavano che io facevo TVI, perché allora avevo una Grand Prix attaccata alla ringhiera della finestra di casa, che era al primo piano. Intanto il palazzo dove abitavo era piano terra e primo piano, basta. E dunque l'antenna poi usciva dal tetto, poi usciva, no? E mi accusavano che facevo TVI. E dopo ti racconto la storia, però voglio fatto passare la voglia. Vai Massimiliano. Sì, vabbè, prima prima, così prima il TVI era all'ordine del giorno. Sì, ma il bello è questo, Massimiliano, che io il TVI in realtà non le facevo, è perché loro avevano l'antenna, l'antenna del palazzo dove abitavo io, era un'antenna per quattro famiglie, perché dove abitavo io era una palazzina con quattro famiglie, con due scale, una da una parte e una all'altra, due ingressi differenti, no? E siccome l'antenna era tutta marcia su, e dicevano che io facevo il TVI, perché? Perché allora, parlando di quando esisteva primo e secondo canale, ancora il terzo canale non esisteva, le TV private nemmeno per sogno, c'era primo e secondo canale, basta. Beh, e siccome questa antenna l'ha messa a mare, il padrone di casa, perché allora ero in affitto io, non ci permetteva di salire sul tetto nemmeno per aggiustare l'antenna TV. Allora cosa avevo fatto io? Nel palo del baracchino avevo anche l'antenna della televisione e io vedevo tutti i canali, tutti indistintamente, vedevo tranquillamente, ma bene, veramente. Anche quando poi sono arrivate le TV private, a differenza di loro, che anche quando sono arrivate le TV private non vedevano ben niente, vedevano semplicemente primo e secondo canale, e buh. Addirittura prendevo Tele Monte Carlo, ti puoi immaginare allora, Tele Ciocco, quei canali di tantissimi anni fa, li prendevo bene, benissimo, Tele Obiettivo Sardegna, tutti li prendevo, insomma, ecco, mentre invece loro non li vedevano, io sto parlando di quelli del palazzo dove abitavo io, e mi avevano accusato che la colpa era perché c'era l'antenna, anche quando non c'ero, c'era TVI, secondo loro, perché ero io il colpevole, e poi continuo, dai, per non fare troppo lungo il discorso, dopo continuo a dire è quello che ho combinato. Vai Franco. Ma era così prima, oddio, anche adesso è così, la prima persona che additano è quello che c'è l'antenna del baracchino, l'abbiamo visto anche da poco con il nostro amico, e l'hanno fatto scappare, purtroppo, vai. Avanti Vassimilia. Vabbè, ma lì è forse meglio che è stato così, no? Perché tanto poi lì alla fine arrivavano alle mani, quindi secondo me è stato una cosa buona così, no? Signori, io vi lascio perché è arrivata mia figlia, mia moglie, e quindi mi stanno chiamando a scendere giù, e qua devo lasciare, no? Ci sentiamo, grazie della chiacchierata, buona serata, buona Juve per stasera, speriamo che perda, giustamente. Ci sentiamo, questa era per Giulio. Vai Giulio, riprendi, vi saluto. Ok Massimiliano, grazie a te per la chiacchierata. Io spero che stanotte riescano a passare il turno la Juve, speriamo bene. La partita molto difficile comunque, squadra da rispettare, non ci sono dubbi. Ciao Massimiliano, alla prossima, a domani se coincide magari, dai, grazie ancora per la chiacchieratina. Vai Franco. Sì capa, ciao Massimiliano, anche per te una buona serata, buona carica, buon tutto, grazie della compagnia, piacevole come al solito. Avanti Giulio, speriamo che vinca, dai, ormai è l'unica rappresentante che abbiamo italiana. La perdiamo pure, anche se non sono juventino, però rappresenta l'Italia in questo caso, dai. Ma io sono juventino da sempre, però quando le squadre italiane giocano in Coppa Europea, eccetera, ho sempre tifato per le squadre italiane, perché ne va del prestigio dell'Italia stessa, perché uno è il tifo per la squadra del cuore, l'altro è la squadra, deve tifare anche per gli italiani, siamo tutti italiani, per cui che problemi. E poi tra l'altro io non sono fanatico, io non, quando guardo la partita non mi rialzo dalla sedia come un pazzo a festeggiare il gol, io in silenzio sono, guardando in silenzio rimango, non fiato nemmeno, ma veramente guarda, te lo giuro, non fiato nemmeno, non, sia quando segna la Juve che quando subisce gol, non fiato, proprio niente di niente. Per cui va bene così, vai fa. No, io non dico che non esulto, un po' esulto, dai. E se prendevo un po' mi dispiace, però non sono neanche io un fanatico. tutto qua, dai. Eccomi. Mandi Gianni. Ehi, ragazzi, sono andato a mangiare un boccone, perché mi stavo zero parenti. E quindi niente, vabbè, era giusto per dire che insomma oggi non sono molto in forma, e quindi dai, faccio un altro paio di passaggi e poi vi lascio, dai. Insomma, ieri hai già mangiato tu, dai. Ehi. Ah, Giulia, sta fottito, eh. Sta vero, mi batte le basi, capita, vabbè, dai, si è fregato, dai. No, sta facendo come fa Marco Condo. Lui sta facendo così adesso. Vabbè, sei fottito, dai. Va bene. Hai fatto bene, Gianni. Bisogna mangiare quando si sente il desiderio di mangiare, certo, ci mancherebbe. E ti volevo raccontare la storia del fatto del TVI che mi accusavano, opa. Allora, in quel periodo io ero anche giovane, diciamo, e facevo molte applicazioni elettroniche, molte, soprattutto microfoni, i cuffioni in legno con gli amplificati, preamplificati con il circuitino, tutto autocostruito, eccetera. Anche il microfono in legno, tipo il Tannen più 3 a tavolo. Prima lo facevo in legno e poi ci mettevo il circuitino dentro, eccetera, eccetera. Va bene. Mi capita in mano, sempre, perché io ho sempre comprato giornali di elettronica, li ho sempre comprati, ma io, guarda, ne ho buttato addirittura i giornali del 54, tanto per darti un'idea, e poi mi è dispiaciuto, ma li dovevo buttare perché non avevo posto, non dovevo tenerli, mi davano fastidio. E ho visto, da questo giornale, ho visto questo, un radio a reazione, siccome ne facevo diversi, di radio a reazione, tipo radio galeria, eccetera, però questa è la reazione, brutto, alimentato, e cosa ho fatto? Ho preso e ho costruito questa radio a reazione. Questa radio a reazione nel contempo che riceve trasmette anche, ed è un disastro per il TVI, mamma mia, che cosa, che trasmettitore antipatico, ma veramente un disastro. Eravamo nel periodo delle figlie, me ne sono andato in figlie, me ne sono andato in campeggio, sono stato 4 mesi fuori in campeggio, ero attaccato il WFO, l'ho lasciato una settimana acceso senza rientrare a casa. Quando sono rientrato non era più colpa mia il fatto del TVI, perché non c'ero a casa, era tutto usarrato, non c'era nessuno per dirti, no. E così da quel giorno non mi hanno più cercato. E con chi se l'hanno presa allora? Hanno chiamato il tecnico, hanno chiamato e hanno fatto sostituire l'antenna del palazzo. Ecco, tutto fatto. Tra l'altro ho dovuto mettere anch'io da parte, perché allora lì c'era l'antenna centralizzata ed era per 4 famiglie, ma io non la utilizzavo proprio perché, ripeto, non si vedevano accidenti. E allora avevo l'antenna mia nel palo di una ringhiera della finestra a casa, e in punta c'era la Grand Prix. Allora, la famosa Grand Prix della Lemme, quella con la metà in alluminio e la metà in fibra di vetro, tutto lì. Qua è stata la mia prima antenna, era la Grand Plane, mi sembra fosse 2,75 metri con 4 radiali, se non sbaglio, vero? Sì, con 4 radiali. E tu pensa che la stavo piazzando, già avevano disturbo la televisione, secondo loro, no? Si te lo vede la gente, già lo sai com'è. Questo perché era scottata, che sentivano le voci, che i baracchini disturbavano, le varie. E dunque era diventata ormai un'anomia generale, no? E allora tutti avevano quella maledizione, quella idea maledetta nella mente, che disturbava sempre il baracchino, invece non è vero, non disturbava assolutamente. Tu pensa che ce l'avevo nello stesso palo della televisione mia, e io vedevo benissimo anche con il baracchino acceso e in trasmissione, figura. No, anche questo sembra che non sia disturbato. Io a volte attacco anche qualche watt in più, ma non si è mai lamentato nessuno. Però ce l'ho davanti alla finestra. Comunque so che a fianco a me c'è proprio un televisore che è parallelo proprio all'antenna e non dà nessun problema questa antenna qua, eh. No, questa io ce l'ho a 2 metri dall'antenna della televisione del terrazzo, perché da una parte c'è questa del malacchino, a 2 metri di distanza c'è quella della televisione, che poi tra l'altro quella del malacchino è anche più bassa, cosa che invece è un errore, perché quella del malacchino deve essere più alta di almeno un quarto d'onda più in alto di quella della televisione, deve essere, per evitare ogni inconvenienza. E invece addirittura è più bassa, ti puoi immaginare, eppure non succede niente. No, la mia è proprio sullo stesso piano del televisore, non dell'antenna, del televisore proprio, perché praticamente io so come la casa che c'è qui a fianco a me, perché conosco la signora che abita a fianco a me, la mia antenna rimane proprio alle spalle del suo televisore. Sì, ma certo. C'è da dire che io ho anche il cavo buono, perché le interferenze non tanto dall'antenna quanto dal cavo, vengono fuori dal cavo tutte le interferenze, perché scorre lungo la calza, scorre l'RF è quella che appunto può creare le spurie. Io ho il cavo che è schermato al 100%, perché ho l'H1000, dunque è un cavo abbastanza buono. Ed è grosso anche, tra l'altro è un po' sconveniente perché rimane un po' rigido in quanto il polo centrale, cioè il polo caldo, quello lì è unico, non è a tanti fili, quello è unico e dunque rimane un po' rigido anche per quello, a differenza magari del 213 che è più flessibile. Facciamo girare per Gianni, vai Gianni. Eia. Va bene ragazzi, dai, io oggi non sono super in forma, dai, sono un giù di tono, dai, come si dice, dai, io vi lascio per stasera, grazie del QSO, della chiacchierata e per tutto il resto, dai, ci aggiorniamo prossimamente, a domani se coincide, e niente, un salutone a tutta la ruota, a tutti quelli che sono presenti adesso e a quelli in ascolto, dai, un salutone a tutti. Buona serata e buon proseguimento. Ok, ciao ciao. Ciao, ciao Gianni, dai, riprenditi presto, a vederti con un'antenna nuova, alle prossime, avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, grazie a te per la chiacchierata, dai, ci sentiamo domani, se coincide, certo, ma è così, capito qua, da quando poi io li ho attaccato, qua siccome non c'ero a casa, e loro hanno fatto una ragione, hanno fatto, ma se non c'è questo, come fa a disturbare, non è possibile che possa essere lui, visto così, considerato che il televisore non si vede ugualmente, ma lui non c'è, hai capito? Ero una settimana io senza rientrare a casa, quando sono rientrato dopo una settimana l'ho spento, allora tutto è andato bene, tu pensa che nel frattempo loro avevano chiamato l'antennista, che poi tra l'altro abitavo lì dove abitavo io, nella stessa zona, e ha cambiato l'antenna e tutto si era messo a posto poi, no? E naturalmente ho messo la parte anch'io della spesa che era stata fatta per cambiare questa antenna, e dunque, perché era condominiale, capito? Sì, prima si disturbava con quelli lineari, quei valvolari, mi ricordo anch'io un po' disturbavo quando abitavo in campagna, mi ricordo si era lamentato anche mia madre qualche volta che non vedeva la televisione, però ripeto, quando pompavo un po', sennò se uno usciva liscio non disturbava nessuno, dai. Infatti, beh, la potenza è micidiale, quando c'è un po' di potenza, soprattutto quelli lineari valvolari, quello è critica la situazione, anche perché dietro c'era uno, nel lineare valvolare c'era una vettina, perlomeno in quasi tutti c'era questa vettina, che bisognava accordare appunto proprio il fatto dell'interferenza, bisognava accordarlo facendo delle prove, il canale 1 ad esempio era abiciliare, perché di solito si trovava in pieno quello lo scolavi proprio, perché la quadratura della frequenza analogica era in seconda, in terza e forse in quarta armonica, era uguale a quella della 27, cioè 54 MHz, ed è per quello che allora, perché il canale 5 ad esempio era intorno a quella frequenza lì, era. E allora disturbavo soprattutto per quello, nell'analogico. Eh sì, era un multiplo della frequenza che usavamo noi, così. E allora, cioè, 27 e 27 fanno 54, fanno, ecco, mi sono spiegato meglio adesso, che sono 27 MHz del baracchino, più 27 diventa seconda armonica. La seconda armonica entrava nella frequenza della TV, che era di 54 MHz, canale 1 di allora. Ho capito, ho capito. Vabbè, però ero convinto che comunque che questi televisori di oggi non prendessero colpi, invece a quanto pare dipende sempre dall'antenna, così. Beh, oggi di solito quando c'è un'interferenza, diciamo, siccome nella luce quell'antenna, che l'antenna TV che è in difetto, soprattutto se uno ha l'amplificatore, perché non si dovrebbe mettere più, non serve più, insomma, ecco, perlomeno per Sassari non serve più l'amplificatore, perché il segnale è abbondante e dunque va bene dappertutto, in qualsiasi angolo della città, per cui è meglio eliminarlo, primo, poi analogico e digitale, e prima era analogico, e siccome noi i baracchini sono ancora analogici, e allora era quello anche il problema, mentre invece oggi c'è quella differenza, cioè, che oggi sono digitali i programmi TV e sono lontani come frequenza, molto lontani, e sono gli oltre 400 MHz, per cui per entrare bisogna che abbiano intanto un'antenna messa male e poi soprattutto che ci sia una certa potenza, possibilmente, dai, o perlomeno che sia messa a ridosso dell'antenna TV, anche se sì, magari con i suoi 5 watt. Sì, sì, mi ricordo anche quando passavi in macchina, sempre con lineari attaccati, e tu entravi nelle frequenze, tipo, cioè nelle apparecchiature delle radio private, praticamente poi la tua voce ci rifondeva tramite l'antenna della radio. Certo, ma era così, infatti era così, anche perché c'è da dire questo, che prima i televisori col tubo cattolico di allora avevano la media frequenza schermata pochissimo, ma proprio poco, veramente, e entrava tutto nelle medie frequenze, entrava il segnale della 27, entrava nella media frequenza del televisore. Invece oggi i televisori sono fatti in maniera diversa, oltre al fatto che hanno un'altra frequenza, perché il digitale ha un'altra frequenza abbastanza distante da quella che è la frequenza del baracchino. Potrebbe capitare che, perché moltiplicando sempre 27, potrebbe anche arrivare alla frequenza della digitale, anche oggi, sia ben chiaro, potrebbe anche arrivare. Però se uno ha l'antenna a posto, come si deve, siccome il segnale TV è più forte, è quello che prevale, per cui non ci sarebbe problemi. Ecco cosa intendo. Se poi uno mette lineare, è chiaro che allora, ma lo sappiamo benissimo, non si può utilizzare più di quel tanto, e dunque va bene così. Sì, sono tutte cose che facciamo in più, però, oppure dovete usarlo magari in determinati orari, dove sai che magari la gente in teoria non stia guardando la televisione, però ormai sì, la TV si guarda tutte le ore, altre a volte mi addormento con la TV accesa. Sì, e qui rimane accesa dalla mattina, dalle 9 del mattino fino alle 2 di notte la televisione. Quando ci trasferiamo da un piano all'altro, spegni un posto e accendi l'altro, dunque è sempre accesa la televisione qua. Io ne ho 5 installati televisori a casa, perché io la casa più li vedo, no? Ho 5 televisori installati, se puoi immaginare. Dunque, dove vai c'è sempre la televisione accesa, sempre, dalla mattina presto, dalle 9 del mattino fino alle 2 di notte anche, perché guardiamo i programmi sino a tardi. Dunque, non è quello il problema, ma in tutte le case ormai è così, fa compagnia, capito? E dunque la gente se la accende. Sì, anch'io ne ho 4 collegate, in cucina, in soggiorno, che poi nelle 2 camere da letto, ormai così, manca solo in bagno e qua dove, nella sala dove sono io, qua, in questa sala che uso per modulare. Poi stamattina ne ho riparato uno, si era spento lo schermo, praticamente la TV funzionava ma non si vedeva l'immagine. ho preso una pila, gliel'ho puntata, ho visto che l'immagine c'era, quindi ho detto deve essere roba di retroilluminazione, e infatti c'era un led bruciato, c'era. Ah, è ok, l'hai sostituito e ha ripreso a funzionare allora. Non ho trovato un led di quella, ho trovato un altro tipo di led, ma sicuramente assorbiva troppo. Quindi non l'ho messo, adesso gli ho fatto un ponte praticamente, siccome sono messi in serie, se ne brucia uno si interrompe tutto il circuito, quindi adesso gli ho fatto un ponticello e basta per adesso, visto che mancava solo un led, spero che non risentano gli altri, infatti gli ho fatto abbassare un po' la luminosità, gli ho detto di non usarla mai al massimo, che era un pochettino più bassa, in modo da non caricare gli altri led, dai. Ho capito, praticamente stai sfruttando gli altri led, stai sfruttando, ho capito, sì, è beh certo. E oggi è così, no, ma prima non era così, prima era tutta un'altra musica. Io vi ricordo, allora, a quei tempi, mi avevano regalato un televisore vecchio, l'avevo modificato, e l'avevo messo un diodo al contrario di quello che è, di come doveva essere, con una polarità invertita, e prendevo addirittura i canali francesi tranquillamente, una piccola aggiustatina alla media frequenza e si vedevano i canali francesi tranquillamente, perciò questo è nel televisore, mentre invece nella radio, sempre di quelle a valvole, delle radio di allora, così smanettando sentivo la radio addirittura del carcere della Sinara quando parlavano eccetera eccetera, insomma, e altre cose anche che non ti dico frequenza. Posso immaginare, e comunque erano cose belle, ci si buttava tutto, E mi ricordo anche degli amici per fare le telecronache delle partite di calcio, per trasmettere dal campo sportivo, diciamo, alla radio privata, utilizzavano delle specie di portatili, di baracchini, tutti con varie modifiche, e si faceva la telecronaca quasi in diretta, diciamo. Là. Sì, ma quello lo facevano tutti i campi dilettantistici di che ci sono qua in Sardegna, da Castelsardo ad esempio, questi posti così, facevano la partita dal baracchino, accendeva il baracchino, li sentivi parlando, facendo il commento della partita, certo, li facevano, a voi adesso lo facevano, l'hanno fatto tante volte, l'hanno fatto quel problema, quel discorso lì. Sì, poi c'era il ricevitore sempre dove c'era la radio, la radio privata, e ripassava, diciamo, il commento lo ripassava in diretta, dai. Mi ricordo del Mariotti di Alghero, un cronista che conosco abbastanza bene, dai. Sì, ma facevano, da un po' di campi facevano questo servizio, facevano la domenica a sera, dalle tre in poi, c'era sempre la partita, c'era, quante cose che si sono fatte allora, oggi di queste cose non se ne fanno più, anche perché prima addirittura c'erano i pescatori, tu volevi sentire i pescatori e chiacchierare con loro quando erano a mare così, lavorando, appunto lo sentivamo, parevamo sul canale 1 anche per tutta la notte se resistevi, e adesso invece non si fanno più queste cose, perché anche loro non c'erano più il baracchino e ormai usano la radio. Sì, li sentivo anch'io lì in campagna qualche anno fa sul canale 1 i pescatori, anche perché il mare si propaga bene anche l'onda, quindi viaggiavano, arrivavano forti, arrivavano a casa, ero aperto poi verso il mare, verso Porto Torres. Anzi, c'era un periodo che avevamo anche il VHF marino e parlavamo anche con quello sul canale 168, mi sembra, no, canale 8, 168 era il canale dei pescatori dove c'era il meteo, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliare, ma mi sembra che è così. e noi sul canale 8 del VHF Marino facevamo queste opere, quante volte, caspita, io me lo ricordo allora in quegli anni, cosa che non si poteva fare, però siccome loro lo usavano per chiacchierare sul canale 8, per il servizio della barca usavano quell'altro canale, mentre invece per chiacchierare fra di loro usavano il canale 8, e entravamo anche noi, più di una volta, io, Porto Pilato, Emanuele Bonalma, Gio Maria, Mario Mao, mi ricordo, Tonino di Usini, insomma, tante, entravamo e facevamo questione con loro, con VFO Marino, canale 8. Che frequenza coincide? Cioè io adesso col portatile sento il bollettino meteorologico, lo sento in due frequenze diverse, lo sento. Non mi ricordo la frequenza esatta, non me la ricordo. Sì, infatti era così. Era il canale che loro utilizzavano per le loro chiacchierate fuori da quello che era il lavoro, capito? Vediamo se c'è ancora in trasmissione. Sì, il meteo c'è sempre, voglia che si sente. Anzi ti dirò che in estate lo sento anche dalla Corsica, dalla Francia, là. Il meteo dalla Francia anche sento io qua. A un metro, visibilità, buona, localmente. Si sente? Sì, c'è sempre, quando è continuo, no? Quando non smette mai. Ma c'era anche un periodo in quegli anni lì che la nave di linea di Porto Torres, quando viaggiavo alla notte, mi sintonizzavo col baracchino e sentivo le telefonate che facevano dalla nave verso casa. I passeggeri telefonavano direttamente dalla nave, telefonavano verso casa, e siccome era il telefono della nave che era pubblico, era un telefono pubblico che era in nave, mi sentivo io, a voglia, ma tutta la grande, con il coso, con lo scanner, questo era con lo scanner, con un ricevitore. Enrico, cosa usavano? Che ponte usavano per arrivare a noi? No, era un telefono normale, che era sulla nave. Era un telefono Telecom praticamente, o SIP, anzi, allora c'era la SIP. E loro telefonavano a turno, si vede che si prenotavano i passeggeri della nave, e quando erano magari in navigazione, prendevano e facevano telefonate ai loro familiari. E io con lo scanner mi sentivo, e a voi se li sentivo, ebbene, e non solamente quelli della nave, ma di qualsiasi telefonata che uno faceva, anche da casa sua, privata, bastava che io centravo la frequenza, allora era intorno ai 450, mi ricordo MHz, era su quella frequenza, e anche intorno ai 900 il telefono era. E con lo scanner si sentivano le telefonate, ma la grande però. Però erano telefonate non via cavo, ma erano telefonate via etere, dai, utilizzavano dei cordless, i telefoni con filo, quelli non riuscivi a sentirli. E beh, evidentemente in nave c'era un apparecchio particolare, questo sicuramente. Poi quelli di casa, se tu telefonavi ad esempio da casa tua, se io azzeccavo l'ora che tu stavi telefonando, con lo scanner ti sintonizzavo e ti sentivo, per dire, no? È ovvio, ma ti sentivo e basta, non è che potevo parlare con te, no? Sì, però non so spiegare, sempre se io avevo un cordless, perché se io utilizzo un telefono a fili non riesci a sentirmi, è quello che voglio dire, però si usavano quei cordless, quelli con l'antenna che trasmettevano su quelle frequenze lì, dici tu, sui 900 MHz o quelle che fossero, e allora riuscivi a trovarli per quello. Ah no, col telefono da casa, il telefono di base, quello 450 MHz, allora c'era quella frequenza, c'era, lo sentivo anche quello, il cordless, vabbè, il telefono così, quello lì era facile, ma anche se tu telefonavi da casa tua col telefono di base, ti sentivo lo stesso. Si trattava naturalmente di azzeccare il momento che tu stavi telefonando, perché se non c'era, non c'era, anzi ti sentivo di più, se ti squillava, addirittura sentivo lo squillo quando stavano facendo la chiamata, pensa un po'. Non pensavo che quelli potessero essere ascoltati, dai. Con lo scanner sì, con lo scanner di allora sì, ne ricordo, uno scanner che costava 749 euro, cioè 749 mila lire, 749 mila lire, ed era un grande, un po' più grande del telefonino di prima, quello chiamato cabina telefonica, un pochino più grande di quello che era. Mi ricordo una ventina anni fa, forse anche 30, mi avevo prestato una volta uno scanner, ma era piccolissimo, era più o meno quanto due pacchetti di sigarette attaccati, no? Però ascoltavamo i cellulari, mi ricordo i vecchi PAX e anche il GSM. Eh sì, e poi sentivi tutto, sentivi le radio private, sentivi tutto, anche l'audio della televisione, tutto sentivi, con quello scanner sentivi tutto quanto. Mi ricordo, caspita, a Giulio, mi ricordo con Giovanni aspetta, come Ciclone, Giovanni Ciclone, mi ricordo, ce l'avevo anche lui, anzi gliel'avevo ordinato io, e gli era arrivato da me, era arrivato, si può immaginare, era arrivato in falegnameria da me, e poi lui l'ha pagato naturalmente. E lui ce l'aveva sempre appresso, anche quando se ne andava in giro, che trovava gli amici, che incontrava gli amici, seduto nella panchina magari, che so io, in Catania o ai giardini, e lui se l'ascoltava così, sentiva, e poi quando era incuriosito, Giovanni Ciclone Bonanni è morto alcuni anni fa. Sì, pace all'anima sua. Come ti dico, comunque ci divertivamo anche, una volta mi aveva prestato un tecnico, forse lui lo usava, non so, per questione di lavoro, mi aveva prestato qualche giorno, ma ci siamo divertiti un sacco, invece di guardare la televisione ascoltavamo questo ricevitore qua, c'era un pulsantino, lui alla prima che beccava ci fermava. Ma era così, purtroppo era possibile, non era giusto fare certe cose, però sai, quando avevi lo scanner era un ricevitore serio, se sto dicendo costava 749 mila lire, non erano due franchi, no, erano un bel po' di soldi. L'avevo ordinato dalla IL Elettronica, l'avevo ordinato, mi ricordo benissimo, come se fosse oggi, e prendeva tutto, qualsiasi cosa, anche i telefoni. Poi tu sentivi quelli che magari, sai, soprattutto i ragazzi, i giovani, che telefonavano alle fidanzate, eccetera, no? Tu sentivi le telefonate d'amore, non lo sai, e noi vivevamo. Ma arriviamo anche oggi di tanto tempo, dai, nel ricordarlo. Sì, era così. Mi ricordo un qualche storia, poi alla fine era diventata una telenovela, perché poi li sentivi anche tutti i giorni, Quindi la storia continuava, era una telenovela. Va bene, dai. Sono già le 20:30, quindi ci guardiamo la partita, dai, piano piano, ci prepariamo, mangiamo qualcosa e ciccia. Grazie per la compagnia, grazie per il QSO, sempre piacevole, e ci rivediamo alle prossime, dai, ok? Ok, fra, ti ringrazio anch'io per la chiacchierata, e anche per me è sempre un piacere parlare con te, alle prossime, dai, ciao fra, a domani, grazie ancora, ciao, dai, buon tutto.